Veramente, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh? Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. La scura dei calciatori di coglioni. Sì, ma se è un'abilità, non è uno, non lo sto offendendo, perché la metà delle persone che lei fa intervenire per rilacciare la trasmissione sono coglioni, e trovarli non è facile. Lei solitamente è molto maleducato, è molto volgare e ignorante. Parenzo, questa mattina volevo fare un gesto molto bello, no? È il compleanno di mia figlia. E cosa ho fatto? Auguri, ho preso 10 anni, importante, ho preso un treno. Ma perché sei qua? Ho preso un treno, ma come, perché sono qua? Ma io lavoro, lascia perdere. Con lei, con la bimba, con gli altri bambini, fare bumbusette, fagli lo spettacolo delle marionette, ad esempio. No, ma senti che cosa ho fatto invece? Ho detto, vabbè, parto la mattina presto col treno, sto lì fino all'ora di pranzo, all'ora di pranzo torno qua. Infatti sono un po' distrutto, mi sono svegliato alle 5, eccetera, eccetera, sono a letto alle 2 di notte, ma queste sono cose che non interessano a nessuno. Anzi no, interessano, perché la mia vita interessa a qualcuno. Però il punto è un altro. Mi è successo di tutto. Tu non sai le bestemmie che ho tirato, in senso metaforico. Ah, ecco. Cioè, nell'ordine. Uno si è gettato sotto il treno, un'ora e mezza di ritardo la mattina, sì. Vabbè. Io dico, come cazzo si fa ancora a buttarsi sotto i treni? Vabbè, cioè, se ti vuoi ammazzare, ammazzati in modo migliore. Ma uno che si butta sotto il treno, ti butti sotto. Ma no, ma è inaudita. Ma ho capito, ma fallo in un altro modo, no? Ammazzati in un altro modo. Pazzesca. Vabbè, ho capito, sarà una tragedia, ma ammazzati in un altro legare modo. Legare questo al tuo ritorno in città. Allora, un'ora e trenta di vita. Un'ora e trenta. Capita. A ritorno, furto di rame, tre quarti d'ora di ritardo. Furto, e tu non sai cosa ho detto contro i Rom. Tu non sai che cosa ho potuto dire, perché ha detto che è stato i Rom. Ma che secondo te chi è che ruba il rame oggi? Eh? Chi è che ruba il rame? Non so. Cioè, chi ruba il rame? Chi ruba i rami? I Rom, no? In genere sono i signori Rom. I signori Rom, dai. Non so poi perché. Tre quarti d'ora di ritardo degli Eurostar, Freccia Rossa, eccetera. Capita. Vabbè. Allora, il mio nuovo idolo. Io dovevi rimanere lì a tua figlia, il destino ti diceva. Allora, questo. Il mio nuovo idolo, vorrei istituire un premio quasi ogni giorno, la zanzara d'oro. La zanzara d'oro. Che però in realtà non sarà mai d'oro. Ma... No, come si chiama? Rubinetti di Casa Monica. No, i rubinetti di Casa Monica, come no. Il coso che dà Staffelli, là, come dire, il tapiro d'oro. La zanzara d'oro, la voglio dare al sindaco, credo, di Ancona, se non sbaglio, il sindaco di Ancona del Partito Democratico. Il quale, a proposito di questa storia dei cinghiali, sai che ci sono un sacco di cinghiali in Italia, no? Sì, un sacco di cinghiali, pare che procurino dei danni pazzeschi. Ma sono pericolosissimi. Milioni e milioni di danni, sono più di un milione in Italia. Sono pericolosissimi. Ha detto che bisogna sterminarli con i lanciafiamme. Sterminarli con i lanciafiamme, stupendo. È un po' come le nutrie, come volevo bellissimo. Le nutrie. Eccolo qua. Senti la frase. La zanzara d'oro del giorno. Il lanciafiamme ci vuole, vanno sterminati. Anche se sicuramente ci saranno degli ambientalisti cretini che protesteranno, non possiamo permetterci di non fare nulla. Vanno sterminati con il lanciafiamme. E poi pure una donna, questa qua, la signora Valeria Mancinelli. Zanzara d'oro assegnata. Meno male, meno male. meno male che Stefano Esposito, l'assessore piemontese, tifoso della Juventus, che ha cantato Roma Merda qui alla radio, ricordando i suoi trascorsi da ultra della Juventus, che ha detto che non conosce il 64, eccetera, non se l'è presa con noi, perché qui siamo al paradosso, cioè, e dice: ma io non ho fatto niente di male, proprio... cammina tranquillo insieme ai giornalisti che lo assediano. Meraviglioso Esposito. Quanti romanisti ci sono qui in mezzo? Assessore, noi apprezziamo la sua coerenza da ultra, ma è stata forse inopportuna quella, no, quella canzone? Assolutamente. Ma quella che è... tu cosa, quando andavi allo stadio, quando eri giovane, cosa cantavi? No, io non ci andavo. E allora sei fortunato. Ce la ricanta allora? No, beh, non esagerate, andatela a risentire. Dura tre secondi. Siamo qui 800 24 00 24. Francamente trovo ridicolo se non vergognoso che ci siano, io non parlo delle riforme delle scuole, questi sono temi che lascio ad altri, me ne fotto totalmente, figuriamoci se la gente in macchina alle 18:30 vuole ascoltare delle considerazioni sulla riforma della scuola o sugli insegnanti precari, figuriamoci Parenzo, lasciamo queste cose, no, ad altri, non credo, sì. Lasciamo queste cose ad altri, alza un po' la voce se non se sente in cazzo, no, sembra dico, che stai per morire, assolutamente non credo, ecco appunto, non credo, però due considerazioni vanno fatte. Alcuni insegnanti parlano, siccome pare che ci sia un trasferimento di non so quante migliaia di insegnanti che per essere assunti si devono trasferire in un altro posto che non è a 30 metri da casa, magari è a 200 km, 500 km, 1000 km, ce ne sbattiamo i coglioni per andare a lavorare, se vuoi essere assunto nella scuola italiana, hai fatto il concorso eccetera eccetera, sei stato assunto, prendi la valigetta, ti metti su un treno, su un aereo e ti sposti come fanno centinaia di migliaia di cittadini in tutto il mondo. No, alcuni di loro parlano di deportazione, deportazione, cazzo. Tra il primo e il 2 settembre verrò a sapere, perché ancora non lo so, dove verrò deportata, anche se il termine qualcuno ha dato fastidio, però in effetti è quello che noi sentiamo con tutto il rispetto che si deve a questo termine e all'utilizzo che ne viene fatto. Con tutto il rispetto che si deve al termine deportazione, poi, questo è un insegnante qualsiasi, non mi interessa nemmeno chi è questa qua. È incredibile, guarda. Io però voglio farti sentire l'amico Rondolino. Sì, signor Rondolino, no, giornalista, il quale... Senti che dice su questi insegnanti italiani semi-analfabeti che non muovono il culo. Non sono disoccupati, sono precari, anche spesso semi-analfabeti, che hanno vinto un concorso vent'anni fa. Semi-analfabeti, insomma, mi sembra. Gli insegnanti italiani sono spesso semi-analfabeti. Generalizzare mi sembra sempre sbagliato. Spesso sono così, che hanno avuto la benedizione di questo governo da ben posto di lavoro e si lamentano pure perché devono muovere il culo, scusate l'espressione, per andare a lavorare in un'altra città. Parassiti, dice, che gridano alla deportazione. Ha ragione, avete rotto i coglioni, non dovete dire nulla, siete stati assunti, siete stati graziati mentre c'è gente che non viene assunta, non rompete i coglioni, via. La vita italiani, gli italiani lavorano, gli italiani lavorano, non sono insegnanti parassiti che gridano alla deportazione. Gli italiani veri lavorano, gli italiani veri, tu li devi rispettare gli italiani, perché non stanno a prendere 1200 al mese per fare 4 ore di lavoro al giorno. Ma chi è? Gli insegnanti non lavorano solo 4 ore al giorno, ci sono. Allora, Salvini andrà, credo, domani, Parenzo, se non sbaglio, al centro di Mineo, dove come è uscito, no, quel certo, signore ivoriano, che ha poi massacrato, almeno così sembra, quei due coniugi. Sì, va lì per rasserenare gli animi, dai. Va lì per dare un tocco, per di, come dire, gli per animi, dare un tocco pop, rock alla per situazione. Per rasserenare gli animi. Va lì per tenere tutti calmi, tenere su tutti sotto controllo. Passeggiata politica si chiama. Vabbè, non esageriamo. Dai, ma in questo non do, scusami, non ho dato un giudizio per ora. Va lì a poi, marcare il territorio, per a marcare ora, il territorio. Stai attento, per ora, non ho dato aggettivi ancora, per ora, ho detto passeggiata politica, poi torneremo. Sentilo. Per ora è cronaca. L'Ungheria fa il muro, l'Inghilterra li mette in galera, la Repubblica Ceca li marchia, la Francia li ferma sugli scogli e l'Italia invece fa sbarcare mezzo moglio. Ho trovato una persona che la pensa come te sulle prostitute, eh? Rita da... No, ma sì, ci sono tante persone, tanti, purtroppo. Tanti, tanti. La signora Rita Dalla Chiesa, intervistata non mi ricordo da chi, sì, dice che il cattivo è il cliente e che non ci sarebbero prostitute in giro se non ci fossero, se gli uomini facessero gli uomini. Mi pare... Ti pare? Mi pare assolutamente ragionevole, dai, quasi su, banale. Dai, quasi su, banale. Il cattivo è il cliente, il cattivo è il cliente. No, miserabile. Ma dai, cattivo. Su, dai. Miserabile. Ritorni su quelle. C'è l'estate, non ti ha portato consiglio da questo, no, punto di vista. No, anzi, ha aggravato, perché in estate ho visto Roma, la via Nomentana, la via Salaria, piena di mignotte. Piena, piena. Miserabile. Un uomo considerato tale... Ha il gusto della conquista in genere. Normalmente ha il gusto, certo, della conquista, cioè non la deve pagare la conquista, certo, perché se paga la conquista vuol dire che tu non vali niente, cioè che nessuno verrebbe con te se tu non pagassi. E se gli uomini imparassero a fare gli uomini, probabilmente non ci sarebbero nemmeno le prostitute. Ma proprio, io lo dico con tutto il rispetto, ma è come non capire come va il mondo, cioè... E recentemente, per esempio, ho parlato con grande gioia con un mio amico ristoratore della Brianza, caro Parenzo, da cui vado ogni tanto a cena, una volta ogni tre mesi, il quale mi ha detto che ha vinto alle scommesse un sacco di soldi, migliaia di euro, e se li è spesi tutti in mignotte. Vabbè. Signore grasso, enorme, grosso. Se li hai spesi tutti i mignotti, beh, io non ci ho trovato niente di strano. Tu lo trovi un mostro, probabilmente, no? Lo trovi, no, un mostro? No, lo ritengo una persona che poi dipende ancora. La, no, lo ritieni, che... uno, lo ritieni uno sfruttatore, un miserabile, eccetera. Io invece, salaria, questo signore qua che conosco, un signore grosso, enorme, ciccione, che affitta, diciamo così, affitta ogni tanto delle signorine pagando migliaia di euro. Lo trovo assolutamente normale, normalissimo. Sì, ma da caso ci vanno i mostri, appunto, lì. Non è che hai mai visto un, vabbè, ragazzo figo che va, ma che c'entra, ragazzo, uno figo, bello, normale, ma non hai capito, non capisci niente di queste cose, veramente non capisci. È con noi Alba Parietti. Ciao. Molto Alba, buonasera. Stavate parlando di mignotte tra di voi? Sì, no, parliamo del fatto che Parenzo è fissato che gli uomini sono responsabili dell'esistenza della prostituzione, che sono, ovvio, che gli uomini sono che vanno a prostitute sono dei miserabili. Parenzo dice questo, per me è una cosa ridicola, ma io non so come la pensi. Io è molto lungo, però non è che no, molto lungo, no. Parliamo di prostituzione, la questione è molto complessa. Non la vogliamo fare complessa. Però ha detto una cazzata Parenzo, hai detto che sono solamente quelli che fanno schifo che vanno. Non è vero, ma non è vero, questo non è vero. No, sono la maggior parte degli uomini che non vogliono avere rapporti con una donna sul serio, cioè rapportarsi con una donna vuol dire rapportarsi con un essere umano e pensante e avere dei doveri e ma avere non è solo anche questo, rispetto, dai, della dignità. Ma non è solo questo, ma chi va a mignotte vuole andare a mignotte e basta, punto, si vuole divertire, punto. Perché bisogna dare un timbro? Chi va a prostitute? Va a prostitute perché ha piacere di andare con le prostitute, quelle incassano, è un dout des, mi sembra la normalità. Ma chi ti ha detto che incassano le prostitute? Vabbè, quello è un altro discorso. Per esempio sono degli sfruttatori. Quello è un altro discorso. No, non è un altro discorso, perché la maggior parte della prostituzione per strada, per esempio, prostituzione minore. Ma quello è lo sfruttamento della prostituzione. Quella va combattuta. Quella va combattuta. Per come schiavi tu, ma stai scherzando, sempre di più. Quindi non è una roba su cui ci possa tanto ridere. Andrebbe legalizzata proprio per essere controllata. Ma quante prostitute ci sono in televisione, secondo te? Quanta prostituzione c'è? Anche tanti uomini. Anche tanti uomini, eh. No, ma non parlo di gente che sto prendendo in quel posto, scusami. No, no, di che? Di lecchini, dare via, di lecchini, e dare via la faccia, la stessa cosa. Anzi, io trovo quasi più grave quelli che, cioè le prostitute, quelle che battono i marciapiedi, hanno molta più dignità se lo fanno liberamente, perché perlomeno è una scelta fine a se stessa. Questo cioè è una scelta editoriale, hanno scelto di fare le mignotte. Invece molta gente che lavora grazie al fatto che si prostituisce e dice anche cose che non pensa, io lo trovo molto più grave. Sì. E il mondo della politica, per esempio, il mondo della televisione è pieno di gente che dice le cose a pagamento e che cambia padrone. Sì, però facciamo qualche nome, dai, fai qualche nome. Ma non ce n'è bisogno. Non ma guarda, bisogno. Tutti quelli che hanno fatto i Volta Gabbana hanno detto cose... C'è gente che vede realmente un minuto dire una cosa e un minuto dopo cambiare il partito politico e dire la cosa inversa, è evidente che sono delle puttane. Allora, Alba Antonella Parietti ha cambiato nome, ne parliamo dopo il traffico, 800 24 00 24, ha cambiato nome per i profughi, in onore dei profughi e in nome dei profughi. Le strade in diretta saranno anche utili. C'è il traffico, il traffico. Mamma mia, no, il traffico. No. Sono una boiata pazzesca. Traffico, no. No. Fate qualcosa, vi prego. La Zanzara. Allora, io intanto sono preoccupatissimo da quello che ho letto, Parenzo, dal leader degli Iron Maiden, che ha parlato del suo cancro ad una radio americana, Sirius, cancro sconfitto, e ha detto che la causa del suo cancro alla lingua, alla bocca, non so dove, oddio, potrebbe essere il cunnilingus, mi sono preoccupatissimo questa cosa qua, cioè un virus che viene dal cunnilingus, cioè Bruce Dickinson, che è il leader degli Iron Maiden, ha detto la causa potrebbe essere il sesso orale. Guarda, sono un uomo distrutto, oltre che dalla stanchezza, anche da questa cosa qua del leader degli Iron Maiden. Vabbè, io voglio capire dalla Parietti che cosa ha fatto, che posso dirti una cosa? Allora, a parte il fatto che voi prendete tutto straordinariamente in braccio, nel senso che mischiate discorsi sull'immigrazione, mischiamo tutto. Ma senti, ti sei preoccupato per la tua lingua? Mi sono preoccupato perché tu... Beh, lo posso immaginare, forse la tua mansione, diciamo, lì ci sai fare, non lo so. No, diamo questa notizia perché la mischiamo con l'immigrazione e può essere interessante. Questo è sempre così, tu sai che andiamo... E di gente che la lecca, è bellissimo. È stupendo. È una cosa meravigliosa. Ma tu sai che noi siamo abituati, diamo la pubblicità, le previsioni del tempo, parliamo un po' di quelli che leccano la... Eccetera, e poi parliamo di morti, no? Come no, ma adesso ho detto, ho aperto una parentesi. Questa è, tra l'altro, passare dall'alto al cosiddetto basso è anche una specialità della casa, come sai, no? Cioè, lo è una so, specialità. Poi, allora, insomma, la mia parentesi è... la radio si sta adeguando, voi siete famosissimi ogni giorno. La parentesi è questa. La causa potrebbe essere il sesso orale, dice Bruce Dickinson. Io mi sono preoccupato, basta, ho chiuso la parentesi. Certo, perché tu non fai altro praticamente. Beh, adesso non faccio altro, no, dai, non esagerare. Non so. Diciamo che è una pratica che mi piace assai, ma anche a te piace, evidentemente, no? Anche ma a te piace. Io non racconto i fatti miei. Ma allora perché me lo dici a me? Guarda che vuoi saperlo da me e poi non racconti i fatti tuoi. Ma sei curiosa? Ma io non ho detto niente, ho raccontato una cosa del leader degli Iron Maiden e tu hai detto piace anche a te. Io ho detto sì, piace anche a me. Allora a quel punto te lo chiedo pure a te. Se ti... allora, È colpa tua stavolta. Parliamo prima di mignotte, poi parliamo di cosa, adesso cosa vogliamo fare? Mettiamo un po' qualche bambino morto. Così no, bambino morto, tutti si sono indignati. Pubblichiamo o non pubblichiamo questa foto? Questa foto era da pubblicare, quella del ragazzino morto. È ovvio, ma non è quella foto. Tu hai cambiato il nome sul profilo Facebook. Che cos'è questa trovata? Scusa, spiegami un po'. Ryan Kurdi non è una trovata mia. Io ho preso il nome, mi hanno dato loro queste persone. Tra l'altro io mi scuso tantissimo, ma basta andare a guardare sul profilo, sui vari profili. C'è una ragazza che credo si sia fatta promotrice e ha lanciato questa tu hai scritto il mio nome Ryan Kurdi, sono morta e il bambino sulla spiaggia era mio figlio. Esatto. Ma che serve? Tanto per cominciare a capire da che parte stiamo. Io quello che voglio dire è arrivato il momento in cui se non ci indigniamo e non ci commuoviamo e non ci sconvolgiamo e commentiamo in modo sgradevole anche questo tipo di immagine o non abbiamo capacità di stare un attimo in silenzio ad ascoltare e a guardare l'orrore che ci e vabbè, quello, vabbè, e non proviamo compassione, ma tutti provano compassione dolore, per un bambino morto e non ci immedesimiamo ma per i bambini morti in generale. Vabbè, ma la questione dai, per favore, no, ma questo allora, d'accordo, ma non capisco già oltre la commozione. Poi allora, per esempio, tu ti sei indignata perché quelli segnano i bracci con i numeri? Ma certo, ma questo è evidente, certo. E perché? Vabbè, ma lo facevano, ma perché hanno cominciato così all'epoca dei nazisti? E vai a parlare con un ebreo di ma che c'entrano? Non è che c'entrano genere. Sempre gli ebrei in queste cose qua, non è che ogni allora, volta c'entrano gli ebrei. Dobbiamo stabilire se gli esseri umani hanno dignità o no. Ma era un modo di organizzare l'afflusso. Allora vorrei ricordare una cosa pazzesca, alla gente che ci sta ascoltando, che il popolo ebreo era un popolo molto ricco. Ma non c'entra niente. Non era un popolo di disgraziati. Aspetta, come sono questi veramente poveretti senza voce, senza identità. Ma quelli hanno messo dei numeri per organizzare. Sono stati terminati in virtù del fatto che bisognava fare una sorta di eliminazione di chi dava fastidio, di chi non serviva, come si fa con i vecchi, come si fa con i malati. Ma questi mica vengono eliminati, hanno segnato i numeri per l'organizzazione, il numero del treno. Come si faceva con i pazzi. Ma non è così, dai, vabbè, su, non è. Allora, scusami, Cruciani, io vedo con piacere che tu, a parte di parlare di figa, non guardi la televisione, non segui. Ma non io sai guardo tutto. Sono stati trovati tir con gente morta. E vabbè, d'accordo, benissimo. Ovunque, voglio dire, malissimo, anzi, allora? E allora benissimo. Beh, che ce ne frega, giustamente. Ma no, ma non è che ce ne frega, ma perché è normale, ma basta che stiamo bene noi. Ho capito, ma la soluzione qual è? La soluzione è una bella figa da portarti fuori. Vabbè, ma che c'entra adesso? Dai, su, ma non c'entra. Te, ma perché tu invece stasera che fai? Vai a ospitare un profugo a casa oppure vai a fare una serata? Anche tu fai la tua vita normalmente, no? E dai. Da Santanchè, che ti giuro, o da Salvini, che sono discorsi da proprio. Io mi rifiuto. Ma che c'entra? Che Salvini che ha fatto? La gente che ha fatto? Del Bar Sport. Allora, scusami. Ma che ha fatto Salvini? Spiegami, allora, che ha fatto Salvini. Il livello di conversazione con i politici è diventato un livello da Bar Sport. Questa ignoranza antropologica, la possiamo chiamare così. Ma chi è ignorante? La Santanchè è ignorante. Allora, la Santanchè è ignorante. Invece di star lì col mantello tutte le domeniche, non va a, non prende lì a casa sua lì in Vaticano una cinquantina di profughi a dormire nella sua discorsi assolutamente idioti. Perché, ma chi è idiota? Diamo un nome e un cognome all'idiota. Salvini è un idiota? No, Salvini fa il suo, non è, è idiota, scusami, chi non capisce che quelli sono discorsi da Bar Sport. Un politico non può fare. Come lo giudichi? Un, è una specie di nazista, un nazistoide? No, uno... lo giudico un paraculo pazzesco che ha capito che parlando quel tipo di linguaggio di pazzesco. Domani va a Mineo, domani va al Cara di Mineo, dove uscire. Aspetta, a un tipo di persone che probabilmente hanno delle problematiche gravissime, serie, del quale io ho il massimo rispetto, perché la gente. Cioè, chi vota Lega ha problematiche serie, stai dicendo. Aspetta, chi non arriva alla fine del mese, chi non sa come mantenere il proprio figlio, chi non ha un lavoro, è chiaro che vede, e magari avendo vissuto anche in una discreta condizione di ignoranza, perché il pubblico riesce a fruire al massimo dei canali della televisione per farsi una cultura, invece magari di aver avuto la possibilità di studiare, non si rende conto che questo tipo di populismo viechissimo non ci porta altro che a una continua... Però scusami Alba, domani Salvini... Ci porta, domani Salvini va in quel centro di Mineo da dove è uscito quel signore che poi ha trucidato quella coppia di coniugi, no? Hai letto, no? Sicuramente. Sì. Invece non vogliamo parlare, certo, perché invece noi italiani vogliamo parlare di Carretta che ha trucidato tutta la famiglia. Ma che c'entra Carretta con quello? Ma quello è entrato lì, ma fratellini, cose, cioè. Perché dobbiamo fare questo? Ma perché è un caso diverso perché è un caso diverso dagli altri? Quello è uscito da un centro di accoglienza, non doveva essere in Italia. Certo, è uscito da un centro di accoglienza. No, non dobbiamo dirlo, non dobbiamo nemmeno dirlo. Non dobbiamo nemmeno dirlo. Ma quanti anatoli ci sono in Italia che lasciano la bambina in un momento in cui vedono la rapina? Ah, tu dici che gli italiani non salvano la vita? Gli italiani non salvano. E vengono ammazzati come ha fatto quell'extracomunitario. Cioè, gli italiani non lo fanno, hanno meno coraggio dell'ucraino che ha salvato. No, saranno uguali. Che ne so, sono quanti italiani ci sono? Bene, e ci sono delle merite merde. E noi non siamo diversi dagli altri, perché siamo un popolo, oltretutto, educato a vivere. Noi viviamo, ripeto, in modo, ripeto ancora una volta la parola, proprio antropologicamente ignoranti. Perché ci noi siamo antropologicamente ignoranti. Il mio orticello, il mio giardinetto, noi siamo ignoranti. La mia lavatrice, il mondo è qualcos'altro e ce lo stanno dimostrando, perché tu non puoi chiedere alla gente di crepare e di essere felice. Le soluzioni, come al solito, non si vedono. Cioè uno dà uno... Scusami, questa è la realtà. Scusami un secondo, Cruciani, io di mestiere non ho scelto di fare la politica. Ho capito, però se uno grida, siamo ignoranti, siamo rinchiusi io, noi stessi. Scusami, allora io scelgo di... Allora, fammi leggere, dai, perché non mi fai leggere tu? Ma magari, che non mi elegge. Magari. Sai perché non mi eleggono, caro Cruciani? Perché non ti eleggono? Perché non ti eleggono? Perché io se decidessi una volta nella vita di far politica, siccome sono una persona figlia di un ex partigiano, non riuscirei a farla in questo modo. Fermi tutti! Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. La Zanzara. A dargli una degna sepoltura al gatto, quel gatto che è in testa, che si allontana un chilometro che è un gatto morto. Ma porca puttana, ma si allontana un chilometro che è un gatto che non è, sono sotto i capelli. Ma non dico che ragazzi, ascolta, si vede che quello lì è un gatto morto. Allora, secondo la Meloni, Parenzo, quello della Costa d'Avorio, là, che avrebbe ucciso i due coniugi, è un sedicente profugo, perché in Costa d'Avorio sono sostanzialmente ricchi. Noi abbiamo visto che il principale indiziato dell'omicidio dei coniugi Solano è un sedicente profugo della Costa d'Avorio. Ora, la Costa d'Avorio, perché si sappia, è una nazione nella quale quest'anno il PIL è cresciuto del 7,4%. Diciamo che non è in guerra la Costa d'Avorio. Scusate, non solo non è in guerra, ma è una nazione nella quale il prodotto interno lordo quest'anno è cresciuto del 7,4%. Allora, è possibile mai che bisogna sempre in questo dannato paese cercare il compromesso con i cattolici, il compromesso con il mondo cattolico, eccetera, eccetera? Mi fa impazzire. Ma in che senso? No, per l'unione gay, no? Le vogliono chiamare. No, ma le vogliono chiamare in un altro modo. Non so se hai letto da qualche parte. Sì, ho visto. Ma questo però è un problema, appunto, di quei problema, no? In realtà sono dei politici cattolici che ovviamente in Parlamento. No, ma scusa, sì, d'accordo. Fanno pesare esatto. i loro scranni, le loro sedie, esatto. Per carità. Ma ti pare normale che invece di chiamarle unioni gay, matrimoni, eccetera, eccetera, ipocrisia. Formazioni sociali specifiche? No, ipocrisia linguistica. Io se fossi un omosessuale mi incazzerei e mi rifiuterei di essere sposato, tra virgolette, o di essere unito a qualcuno attraverso delle formazioni sociali specifiche. Che fai? Che cosa dici al tuo partner? Amore, vogliamo fare una formazione sociale specifica? Ci vogliamo unire in una formazione sociale specifica? Dai, su, basta con queste cose. Sono matrimoni, poi volete chiamarle unioni, beh, sono matrimoni e così devono essere, come in tutti gli altri paesi, non formule astratte, altre denominazioni per non urtare la suscettibilità. Ma dai, basta. Oh, in Piemonte, se non sbaglio, dov'è Ormea in Piemonte, ci sono dei commercianti che per impedire l'arrivo dei profughi in un albergo vogliono ricompensare l'albergatore con 50.000 euro, perché altrimenti questo albergatore dunque hanno iniziato a fare una colletta. Tu li considererai dei mostri, naturalmente, questi qua, no? Assoluti, mostri, bene. Apriamo le danze o no? Apriamo le danze con... Ah no, volevo risentire il signor Brugnaro di ieri. Mi era sfuggito Brugnaro, che considera il sindaco di Venezia da ieri. Mi era sfuggito, ma ve lo voglio riproporre in tutta la sua dolcezza, in tutta la sua meravigliosa spontaneità, che dice: a me il gay pride mi fa orrore, mi fa schifo. Tutte quelle cose per aria, tutti quegli uccelli de fuori. Per quanto mi riguarda, non organizzerò mai una gay pride, non ci sono mai andato, non ne sento la necessità, non ho il titolo per vietare nulla a nessuno, non ho fatto nessuna retromarcia. Se i gay pride sono le scene disgustose che ho visto su internet e sulla televisione, con le varie mercanzie allo spasso e con le sceneggiate che abbiamo visto, io non ci ho mai partecipato, io dico, per come la vedo io, mi fa schifo ed è una carnevalata che va dal carnevale, ho detto io, dove ci si maschera, eccetera. Apriamo la danza, 800 24 00 24. Donato Varese, se non sbaglio il mitologico Donato da Varese. Salve, o no? Salve, sì, sono io, dovrei essere io. Dimmi Donato, dimmi. Allora, io voglio dire una cosa, vorrei avere almeno un'oretta, ma mi accontenta anche di qualche minuto. Beh, un'oretta adesso, non esageriamo. Ti accontenti certo. Di qualche... se glielo dai a quell'animale che è a fianco, non so perché non dovrei meditarmi un'oretta, non lo so. Tu in quale parte del mondo c'è scritto che a quel coglione che è a fianco devi dare ragionamento a me, poi se va pur sulla setta a raccontare cazzate, va bene. Noi siamo allora. Parenzo è silente, però è silente. Come mai è silente? No, so, per il grande ritorno di tutti questi mori. La democrazia, non è possibile che io debba dire 5 parole al mese e quello stronzo ne parla mattina alla sera. Abbiamo avuto il ritorno dopo la pausa. Dovete stare calmi. Allora, io dico che ieri il bene degli italiani. Io amo i miei connazionali. A me non interessa un cazzo dell'Islam che viene a impadronirsi della nostra città, non interessa. Allora quella guerra che è accaduta lì in Iran, ci sono dei ragazzini che sono messi a scarabocchiare su un muro per dire ad Assad, stai attento che fra poco qua verrebbe battuto giù, è nato un Assad. Che voglio dire? Allora gli estremisti islamici stanno provocando guerre per far catapultare adesso nell'Europa. Che c'entra questo, però scusami, c'entra, scusami, c'entra. Qui non arrivano cristiani, tutti quei ragazzini che stanno lì a Budapest, quelli sono tutti islamici, e molti di quei ragazzi sono anche quelli che hanno ammazzato i cristiani in Siria, molti di quei ragazzi, 12 anni, 13 anni, 14 anni, digliela a quella porca della Parietti, porca tra virgolette, perché la Parietti non serve all'Italia, la Parietti deve andare nei paesi islamici, lì deve andare, perché noi Parietti, le Parietti, del cazzo, in questo frangente di storia pericolosissimo, le Parietti non servono un cazzo, scusa, come facciamo a mandare via la Parietti? Abbi pazienza, bisognerebbe invitarla di prendersi quei 4 soldi che è riuscito a guadagnare in Italia. Perché gli dai cosa? Ma no, per capire. Dove sono gli islamici? Per capire. Ma non c'è nulla da capire, la follia non si può capire, si può solo non è, tu sei curare. Uno stronzo, non è una follia, stiamo morendo, testa di cazzo, stiamo... Ma come stiamo morendo? Che cazzo stai facendo per gli italiani, merda? Che cazzo stai facendo per gli italiani? Io penso una cosa. Io ogni tanto ti vedo sulla 7, Ma perché hai perso la testa? Fai una trasmissione. Che vuol dire? Cosa fai per gli italiani? Non è morto in guerra. No, volevo dirti che aspetta, Donato, stai calmo, stai tranquillo. Calma. Perché il mese di agosto cioè serve per rilassarsi, per riposarsi. Io lavoravo il mese di agosto per rilassarsi. Io pensavo con quegli occhi da merda che hai. Ma perché? Io pensavo come te. Allora, Pensavo che il sistema sanitario nazionale, sul quale ripongo grande fiducia, sistema sanitario nazionale, chiamiamo pronto soccorso, e se questo è stronzato, pensavo che gli interventi di cura che erano stati aspetta, Donato, degli italiani che ma che c'entrano gli italiani che stanno morendo? Aspetta, quello fa una trasmissione in televisione. Parenzo, dimmi, dai. No, pensavo che gli interventi che gli erano stati prescritti da diversi medici, pool di medici che ha messo a disposizione, lo avessero migliorato. In realtà scopro come le gabbie con gli animali, no? Tu hai aperto i battenti l'1 settembre, abbiamo aperto 31 agosto, però 31 agosto, hai aperto, e vedete il Colosseo, cioè c'è dove entravano i leoni, ieri hai aperto la prima gabbia, è uscito Mauro da Mantova, siamo sempre in grande forma, devo dire, no? Poi hai aperto oggi la seconda gabbia col leone che era ancora più carico, perché questo leone qui, avendo sentito già il primo, era ancora più carico, ancora più. Quindi l'hai tenuto nella gabbia per un mese, hai aperto la gabbia, ecco il risultato, ecco qua, l'animale che è uscito. Vabbè, adesso voglio dire, adesso non ridurre tutto alla questione animalesca. Donato da Varese è fissato che siamo. Non sono fissato. Aspetta, sei convinto? Fermo là. Sei convinto che siamo, come dire, stiamo subendo un'invasione da parte di Islam? Sono i politici. Ma che c'entra Parenzo? Perché Parenzo è uno sporco comunista di merda! È un lungo schifo che non serve! Allora, Parenzo. Ma cosa vuol dire? Non vuol dire niente. Allora, Parenzo con 4 bottiglioni lì, formato Tartagnan ridotto, come si chiama lì? Come quel porco di Maastricht? Come si chiama quella merda con i baffetti? Come cazzo si chiama? Ma Parenzo chi è? Aiutami. Non lo so, poverino, ma è uno psicologo. Quello che presenta Matrix, chi è quell'urido? E dopo arriva. E poi arriva. Chi è quel D'Artagnan? Chi è quel D'Artagnan che ti vuoi di formato minore? Chi è? Dimmi chi è quel Telese, si chiama Telese. Quel comunista di merda con quelle risate da fallo confrontare dopo con Luca. Allora, digimi, allora, perché regali solo a me sulla cinque lì di lasciare quel posto che io presentando a Berlusconi do quattro cacci nei coglioni e che non deve più noleggiare quegli stronzi comunisti noleggiare, che stanno rovinando l'Italia. Vabbè Donato, però ti è scappata la frizione sui comunisti. No, che volevi dire una cosa che riguarda, mi sembra di leggere qua, vuole parlare della Boldrini. Ci ho scritto solo questo davanti la Boldrini. Ecco, caricato. Io la Boldrini la farei violentare. Questo non si può sentire, dai. Allora, va bene tutto, questo vabbè, non si può sentire. Donato, veramente adesso ti denuncio su questa cosa qua, basta, cioè, denuncio? Dai, Donato, la farei violentare. Ma dai, ma a me cosa dice? Ma dai, su. Devono essere il modello per la mia vita. Ma non lo so, non ho mai rubato una caramella. Vabbè, ma dai, ma stai esagerando. Ti permette di dire che io devo Ma non ha detto che devono essere il modello per la tua vita. Adesso va bene tutto, ma non è che puoi dire queste cose qua. Dai, Parenzo, di pure tu qualcosa, però. Un modello di vita. Vabbè, Donato. Per me è un poveretto, è un malato di mente. Un poveretto. Donato, dai, su. Un violento, un poveretto. Non solo, io voglio essere denunciato, io voglio andare in galera per il mio popolo. Ma che vuol dire? Ma non è che vai in galera per tu. Vai in galera magari perché hai detto una stronzata, hai detto una cosa assurda. Voglio andare in galera per il mio popolo. Vuoi andare in galera? Benissimo, diamo le sue coordinate. Diamogli questa opportunità. Diamogli questa opportunità. A questo punto diamogli questa opportunità. È giusto. Vuoi andare in galera per il mio popolo. Cioè, tu hai detto la Boldrini, i puntini, puntini, puntini. Il popolo che muore in mano ai comunisti. Ma che c'entra? Vabbè, ma chi sarebbero? La Boldrini è comunista, mo? Beh, sì, un po'. Di sinistra, di sinistra, dai. Di sinistra, di Sella, di Sella. Ma sempre da quella razza. Vabbè, ma adesso che c'è? Senti, chiedi scusa per quello che hai detto prima. Chiedi scusa per quello che hai detto prima. Chiedi scusa. Ma hai detto una cosa, non la voglio nemmeno ripetere. Chiedi scusa. Chiedo scusa. Chiedi scusa. Perché io chiedo scusa. Ma io sono molto incazzato con te. No, ma chiedi scusa umilmente. Ho chiesto scusa. Chiedi perché scusa. Io sono imperfetto. Va bene, basta. Anche. Sei imperfetto. Hai chiesto scusa. Ciao. Merita una riflessione questa. La Zanzara. Si è fatto vivo, Parenzo, una nostra vecchia conoscenza, Aia. Franco Ziliani. Oh mamma mia, un signore. Il professor Franco Ziliani, che pare un critico dei vini, come si dice? No, questa è l'unica cosa certa. Come si dice il critico dei vini? Credo che sia un enologo. Un sommelier, uno che scrive di vini, vabbè, insomma scrive di vini. Beh, su... però è anche sommelier lui nella sua biografia. Può darsi, sì, c'è scritto sommelier, può darsi. Scusa se non compulso ogni giorno in una giornata come questa in particolare la biografia di questo Ziliani. Ma tu devi conoscere tutti i personaggi che ruotano intorno a questo mondo della Zanzara, no, tutti. Sì, no, è che però ogni giorno, se vuoi vado a vedere, però guarda. Esempio, Donato da Varese, lo conosci ormai, lo hai metabolizzato. Lo conoscono le migliori cliniche sanitarie italiane. Allora, Franco Ziliani, non so perché scrive su Facebook, ma quando leggo che centinaia di migliaia di migranti hanno scelto come destinazione la nostra amata Italia, mi viene in mente questa deliziosa canzoncina di un cartone animato, credo, di Walt Disney. La canzoncina è La Sirenetta in fondo al mare. Mamma mia. In fondo al mare, in fondo al mare, tutto bagnato e molto meglio, credi a me. Quelli lassù che scoppano sotto il sole svengono. Allora, non capisco bene il collegamento che ha fatto Ziliani. Una cosa mi sembra chiara: Ziliani vuole migliaia di persone in fondo al mare, cioè che muoiano annegati in fondo al mare. Questo è abbastanza chiaro. Però dovrebbe avere il coraggio Ziliani, siccome dove ci l'ha scritta questa porcheria? Su Facebook, non so dove, cioè, non so e perché. Poi, come fai a non dare ragione a Eco quando dice che i social network. Vabbè, ma questo non c'entra niente, dai. Ma come no? Ma, non ma è un contesto normale, uno non si permetterebbe di dire alla radio. No, soprattutto dovrebbe avere il coraggio così, no? Il professore emerito Ziliani. No, ma perché uno parla sulla rete come fosse al bar, no? Come fosse in preda, senza freni, no? Cioè, dice, poi non ha nemmeno il coraggio di dirlo apertamente, no? Quando leggo centinaia di migliaia di migranti hanno scelto come destinazione la nostra amata Italia, vorrei che fossero in fondo al mare, questo dovrebbe dire, invece no, mi viene in mente la canzoncina, cerca anche di fare il paraculo, il professor Ziliani. Non c'è così, anche la razza ed il salmone. sanno suonare con passione. Qui c'è la grinta. Vabbè ragazzi, 800 24 00 24, Leonardo da Prato, vai. Buonasera Cruciani. Dimmi. No, io niente, volevo parlare praticamente del fatto delle caccia, quelle estreme che parlavate l'altro giorno. Anch'io pratico una caccia molto estrema, perché sentivo che uno ammazza gli orsi, ora io non sono arrivato a questo, insomma. Noi praticamente ammazziamo i cinghiali con solamente cane e coltello. Cioè tu ammazzi i cinghiali con i cani e con i coltelli? Ma, esatto, ma come mai? Coltello. Come mai? Perché ti sono un pericolo, perché ti aggrediscono, perché ti piace, perché mangi la carne? Una cosa mi piace anche, carne di cinghiale. Ti piace uccidere il cinghiale per poi mangiare la sua carne, giusto? Esatto, mi piace il cinghiale e la sua carne. E poi volevo dire, insomma, che certo, che Parenzo, girano un sacco di persone qui intorno alla zanzara, cioè intorno a questa trasmissione. C'è gente che ammazza gli orsi, gente che ammazza i cinghiali. È tutto meraviglioso, o no? Oh! David! Ma certo che è bello. Ma che cazzo fai? Dai, cazzo, su! Leonardo, dai! Dimmi. No, però c'è un po' di porti ci sono. Io sentivo l'altro giorno quel cazzo di Rizzi che chiamassi te quell'animalista di merda. Rizzi. Vabbè, allora. Ma quello non capisci un cazzo, cioè gli animali in generale, a parte noi siamo onnivori noi uomini. E poi, ma tu come l'ammazzi il cinghiale? Spiegami bene come ammazzi il cinghiale. Veramente i cani vanno in presa sul cinghiale, sono dei dog argentini, non so se l'avete presente, sono dei cani. Cioè gli scateni i dog argentini? Esatto, scatenato, ma è una cosa diffusa, cioè non è una cosa che allora a cercare. E poi ovviamente quando i cani sono andati in peso sui cinghiali, noi lo prendiamo col coltello, gli infiliamo il coltello all'interno della pancia e poi ovviamente lo scuoiamo vivo, E dopo aspettiamo che il cinghiale sia morto, lo leghiamo le gambe e poi lo carichiamo sopra la macchina. Beh, tu quando arriva. Beh, ma è tutto meraviglioso, Leonardo. Quanto dura tutto questo? Ma può durare dalle 2 alle 3 ore, una cosa del genere, dipende quanto ci vuole a trovare il cinghiale, dipende, ma cioè nel senso, ma ci sono fior di veterinari, fior di persone che lo fanno, tra l'altro ci fu un servizio tempo ma fa. Ma tu non vai con le cose, non vai con i fucili, con le pistole, no, con le armi? No, è più divertente, cioè nel senso andare comunque a lanciare i cani, che prendono d'assalto sto cinghiale e poi arrivare lì e dan! Sferrare, esatto, una bella coltellata, esatto. Ma io non so se i cani, in realtà il cinghiale è un animale grosso, lo saprà Leonardo. No, i cani hanno la pettorina, c'è una pettorina, siamo in Kevlar, che sarebbe un materiale che usano. Che hanno un materiale che è tipo una cosa. I cinghiali ti sfondano, cioè anche una roba. Capito, ma il cane è più agile. Il cane è più agile. Il cane è più agile del cinghiale. Diciamo, il cane è più agile, poi il cane nel senso deve imparare allora una cosa, bisogna levare l'iporisia, cioè sul fatto che tutti dicano i combattimenti, purtroppo tutti i cani da caccia e tutti i cacciatori vengono messi all'interno di alcuni recinti per fargli provare il cinghiale, cioè questo anche tutti i cinghialai, quindi nel senso è una cosa che poi in definitiva la gente non si può far sentire dire. Ma va bene, Leonardo, grazie. Padova, Stefano, vai. Buonasera a tutti, sono Stefano di Padova. Intanto volevo complimentarmi per il vostro rientro. Poi devo dire anche che Parenzo è molto ottimato, è molto migliorato, molto in questi giorni non mi pare proprio, sta muto. Vabbè, Stefano, no, dai, per quello che è migliorato. Niente, io volevo far scoppiare un putiferio, perché ho scoperto, se la morte con gli animalisti, non li tollero proprio a pelle così. E ho scoperto che nelle crocchette che si danno agli animali, ai loro cagnolini, gattini e compagnia, è pacifico che un cane non può diventare un vegano, no? Questo è per... Vabbè, allora queste crocchette dentro che succede? Dentro ci sono cadaveri di animali. Ma allora qual è il punto? Ma non è che si incazzano gli animalisti? Perché per coerenza questi qui che devono insegnare a vivere rompono i coglioni. Cioè dovrebbero dare animali in pasto ad animali, tu dici? Ma non è che tutti quelli che hanno gli animali sono animalisti, un sacco di gente che ha gli animali e mangia la carne tranquillamente. Attenzione, io voglio che gli animalisti facciano il salto di qualità, devono andare a rompere i coglioni a coloro che danno le crocchette ai loro animali. Vabbè, ma adesso devono andare a rompere i coglioni a chi? Non ho capito, a chi dà le crocchette agli animali? A chi compra le crocchette per i loro cagnolini. Ma non... Come hanno rotto i coglioni a quella ragazza di Padova che si chiamava Caterina. Vabbè, quello per altri motivi. Attenzione, una cosa vergognosa, sono un medico, hanno fatto una cosa vergognosa, hanno minacciato di morte una ragazzina di 20 anni, 22, carina, che è sopravvissuta a una malattia rara, grazie alla sperimentazione animale, io benedico. Vabbè, allora? E allora adesso gli animalisti, per coerenza, devono andare a boicottare i negozi dove vendono le cose. Ma non suggerisca battaglie. Ma tanto. Perché prima o poi gente ridicola come Storizia e compagnia prenderà voce anche in questa cosa. e io voglio che scoppi il putiferio. Va bene, Riccardo da Treviso, va bene, ciao ciao, Riccardo da Treviso, vai. Eccoci. Dimmi, dimmi Riccardo. Vai. Niente, devo dire che oggi la Parietti ti ha battuto 10-0. Su che cosa? Sul fatto che hai messo insieme quello che insieme non poteva essere messo. Io ti seguo da tanto. Dimmi, su che cosa hai messo insieme? Non ho capito, ricordami. Hai messo insieme il cantante degli Iron Maiden mentre parlavi di immigrazione. Ma questo lo facciamo sempre, ogni giorno lo facciamo. Oggi lo fai sempre, lo so, ti e allora, per... qual è il punto? Mi piace per questo, ma oggi secondo me non era il caso. Ma non era il caso, è sempre il caso. Quando non è il caso, stai sicuro che è sempre il caso. Quando qualcuno ti dice non è il caso che tu lo faccia, lo devi fare. Se tu ti senti di farlo. Ah, guarda, io è sempre quella. La legge è sempre quella. Quando qualcuno ti dice guarda, non è il caso che tu lo fai, è sicuramente il caso che tu lo fai. Cioè, questa è la mia regola. Cioè, sarà anche sbagliata, mi porta un sacco di guai. Ma io lo so che è la tua regola ed è il motivo per cui ti seguo. Ma qual è il punto? Io ho parlato di una cosa, come questa cosa qui degli Iron Maiden, e subito dopo si è parlato della foto del bambino là. Ma non, cioè, non c'è nessun collegamento. Le due cose, onestamente, proprio erano talmente distanti. Ma succede sempre in questa trasmissione. Succede sempre in questa trasmissione. Ti vengo dietro e lo trovo anche giusto. Vabbè, e allora se lo trovi giusto, perché mi devi venire a rompere i coglioni? È come le pagine di un giornale, però, no? Dentro un giornale trovi tutto. Cruciale. Si parla di moda e poi giri e si parla dei morti. No, c'è di tutto, in un giornale c'è tutto. Allora? C'è spettacoli, film. Non ho capito, Riccardo, dunque? E dunque è questo. Questo, però io ti chiamavo per un altro tema poi. Che cosa, dimmi. Mentre la Parietti ti diceva anche che tu stavi confrontando e mettendo il tema dell'uomo uscito dal CAR di Mineo, che può essere un italiano qualsiasi. Adesso Sfiga è uscito dal CAR. Ragazzi, di non raccontiamoci cazzate. Il fatto ha avuto clamore perché ha parlato non Salvini, non la Meloni, ha parlato la figlia delle vittime. La figlia delle vittime ha sparato a zero contro il governo Renzi. E il fatto suscita clamore perché c'è un immigrato, un signor X, sconosciuto ai più, che è dentro un centro, esce e ammazza due persone. Non è la stessa cosa di un omicidio, come ha detto prima la Parietti, quello di Carretto, altre cose. Non è la stessa cosa, suscita clamore perché è fatto da un immigrato che era stato accolto dal nostro paese, un signor X della Costa d'Avorio, nel centro di Mineo, è uscito, eccetera, eccetera. Non è la stessa cosa, appunto. Nessuno... Suscita clamore perché c'è un substrato. Per ma non è così, suscita clamore perché è evidente che suscita questo clamore, ed è anche che... giusto, ed è anche giusto. E suscita clamore, e punto e basta. Ha ragione la Parietti quando si dice diamo lo stesso clamore all'ucraino che fa il gesto eroico. Ha fatto gesto eroico, non c'è dubbio, questo è chiaro che deve essere. L'hanno sottolineato, abbiamo sentito i servizi. Come il reato, ormai com'è, il reato compiuto dall'immigrato risulta all'opinione pubblica più grave del reato comunque compiuto da un italiano. Però questa sensazione qui simmetricamente è una sensazione sbagliata. Ma sarà sbagliata, ma è così, credo. Ma è così, bisogna fare conti con questa cosa qua. Il criminale non ha colore, sì, per me è un criminale. Alcuni dicono, siccome però sono... ha ragione sia Alba che l'ascoltatore gentile, che fa notare effettivamente dal punto di vista anche dell'informazione, che allora, se è vera questa cosa, fa notizia anche l'ucraino che perde. Ma infatti la vita l'ha fatta notizia. Diventando meno notizia, chiaramente. Vabbè, ma è chiaro che non c'è la gran cassa, non c'era la figlia delle vittime, non c'era Barbara D'Urso, però non c'erano le trasmissioni. Cioè, l'ucraino, c'è sta Barbara D'Urso, è morto l'ucraino. Ma no, Barbara D'Urso per dire i talk. No, ma voglio dire, è morto l'ucraino. Vabbè, è morto, benissimo, facciamogli una medaglia, dammi una medaglia, ospitiamo la famiglia, facciamo tutto il possibile. Ma non lo so, facciamo qualsiasi cosa, ma che dobbiamo fare? L'abbiamo ricordato, punto e basta, dai, ciao. Però quello come viene rubricata quella roba lì? Ah, dice vabbè, sì, ho fatto il suo dovere, oppure niente, no, proprio quasi fosse allora normale quella roba. Mentre Livoriano è Livoriano che ha ucciso, non è un criminale. Questa è una cosa che deve cambiare culturalmente. Un signore roba. Che è entrato in Italia illegalmente, che è stato ospitato in un centro e per mesi nessuno se l'è filato, in attesa di eccetera eccetera. A un certo punto è uscito e ha ammazzato due persone. Tutto questo lo reputi normale? Io non lo reputo normale. No. Certo che no, ma è un problema di gestione di quei luoghi. Oh, ciao belli, su Radio DJ sono ricordati di noi, eh? Beh, c'è ancora, è tornato il mitico, com'è che si chiama, De Montis? Il sardo. Buongiorno, zanzara. Allora, la zanzara, innanzitutto, dottor Cruciani, dottor Parenzo, buongiorno, bentornati dalle vacanze, sono Giambattista De Montis, chiamo da Fuji, in Sardegna. Tante volte lei, dottor Cruciani, dice dove è Fuji, dove è Fuji. Da Cagliari, per andare verso Villa Simius, che voi lì dell'Alta Italia, milanesi, chiamate, ignoranti come delle bestie, Villa Simius, invece è Villa Simius, niente, la trova lì sulla strada, la trova. Parenzo, le dico una cosa, io sto cercando di darle un perché nella vita, ma non ci riesco. È dura, è dura. Ho letto che lei, oltre a essere uno sprovveduto, è anche un morto di fame. Ho sentito prima che si fa chiamare Porchera perché il nome Parenzo è sulla lista dei protestati. Ho letto sul foglio, sul foglio ho letto che lei, Parenzo, è talmente nella merda che invece di avere la carta di credito ha la carta di debito. Questa è Radio DJ, ok? Ha sbagliato a collegarsi con la radio. Cioè, voi due non siete... No. DJ Angelo, Roberto Ferrari, non c'entriamo. Cioè, lei che parla non è Parenzo, no, Roberto Ferrari. Non è Parenzo. Quell'altro non è Cruciani. Allora siete due figli di puttana. No! No! Soprattutto, no! Devo dire, soprattutto quello che mi sembrava Parenzo. Non venite, io ve lo dico. Guardate, segnatevi il mio nome. Cognome De Montis. Nome Giambattista. Non noi. Voi non venite in Sardegna che fate la fine del porceddu, eh? Com'è il Sardegna? Io ve lo... Sai cosa facciamo? Fare Ferrari al... Sì, sai cosa facciamo al porceddu? Gli mettiamo un bastone nel culo e lo facciamo girare. Oliviero Toscani, ciao Oliviero. Ciao, ci siamo. Io ti voglio marchiare il braccio, eh. Dopo tutti i zampironi che ho messo, l'autan, tutto che sta ancora in giro. Vabbè, siamo qui. Ma non ti ha ancora invitato in onda, Parenzo? No, chi è Parenzo? Hai litigato con Parenzo? Parenzo. Hai litigato con Parenzo? No, come si fa a litigare con Parenzo? Parenzo è l'unica persona intelligente alla zanzara. Va, che è l'unica. Ma ti hanno messo stasera, timbro? Stasera viene collegato proprio sulla vicenda della foto, guarda. Lo colleghiamo. Vabbè, sì. Ah, sì? Sì. Ah, bello. Sì. Alle 22 lo colleghiamo. Vabbè, Merlo. Ma non si capisce qual è lo stupore per questa foto pubblicata. Io, ma francamente, non lo capisco. Non capisco perché. Cioè, lo stupore. Innanzitutto, quando uno va in mare, imbarcato da scafisti, su barche fatiscenti, che no, succede che uno muore. Dunque, il fatto che ci sia un bambino morto, tragedia, il fatto che ne parli tutto il mondo, significa che una foto che ha colpito è una tragedia epocale. Ma che cosa strana, è morto, sono morti dei bambini, è una tragedia epocale. Ma certo, e dopo se dopo quella foto dopo serve a far cambiare le coscienze europee. Cambiare le coscienze europee, certo. Che vuol dire? Quel bambino è morto perché quel bambino è morto perché c'è qualcuno che l'ha messo su quella barca. Ma che c'entra? Ah no, non c'entra niente, perché qualcuno l'ha messo su quella barca. Ah, non c'entra niente. La ragione per cui è stato messo su quella barca, ti hai mai pensato? No, la ragione, sono tante le ragioni. Scappare dalla miseria, dalla morte, dalla persecuzione, in alcuni casi, in altri casi, eccetera. Cosa devo fare, Cruciani, stasera? No, parliamo di Salvini, per favore, no. No, Salvini che andrà domani a... Non lascialo stare. Perché? Che fa Salvini? Che ha fatto? Che è? Nazista? Che c'è? Voi adesso diventate pure nazista? No, non insultate i nazisti, mamma mia. Cioè sono non più si può dopo 70 anni parlare così, dopo 70 anni cioè si risvegliano dalla tomba, si risvegliano dalla tomba. Ma non è nazista, no, non è nazista, è peggio. Peggio dei nazisti, perché i nazisti che fanno? Ma no, nazisti non si parla, non è questione di intelligenza. Cioè, erano più originali, dici te? Sono passati tanti anni, non può essere uno... Cioè hanno la dignità della storia, tu dici, almeno quello. C'è una nuova mancanza di morale di cui Salvini è un uomo di retroguardia tremendo. Domani andrà in quel centro di Mineo dove è uscito quel livoriano che poi ha ammazzato quei due coniugi. Non ti smuove, sarà molto utile, sì. Non ti smuove nemmeno questo, nemmeno l'uccisione di due coniugi da parte di un signore. No, sì, mi smuove, sì, ma è chiaro. Quando un paese, un popolo si sposta, ci sono anche i delinquenti. Tu sai quanti delinquenti c'è in Padania? Vogliamo contarli? Beh sì, ci sono un sacco di delinquenti. Allora, beh, che vuol dire allora, però, scusa? Ma è chiaro, metti in un posto come Mineo, tutti sì. sappiamo che posto è, uno impara anche a diventare delinquente. Siamo noi che non riusciamo a organizzare quello che sta succedendo. Cioè, in che senso impara a diventare Ma è logico, l'università del delinquere là dentro. È a Mineo, dici? Cioè, a Mineo sono più delinquenti che in Costa d'Avorio. Entri lì, è chiaro, uno... Impara, 18 anni così, un povero disgraziato, non vedi, faccio da coglione. E tu che faresti con questo qua? Se fosse lui veramente il colpevole, sì. E lo metti in galera. E basta. Certo. Cosa devi fare? Non che ne so, che no, magari lo liberi perché la colpa non è sua, ma è della. È di Mineo, la colpa è nostra che lo ospitiamo, lo trattiamo male. Riflettiamo. Ma che c'è da riflettere? Non c'è niente da riflettere su questo qua. Se quello è colpevole, l'ha preso e messo in galera. Insomma, va giù Salvini, invece Salvini risolverà il problema. Salvini fa politica, però. Quello si chiama turismo politico. Mica politica Salvini, va a raccattare i voti degli ignoranti, dai. Va giù a fare politica a Mineo, a vedere la situazione a Mineo, a raccattare i voti degli ignoranti in Italia. Ma dai, su, ma tu vuoi fare pure il Ku Klux Klan contro la Lega, ho sentito da qualche parte. Sì, non sarebbe male fare una roba al contrario, no? Cioè tu vuoi creare una specie di Ku Klux Klan, no, questo per fargli capire a loro cosa potrebbe Cioè una specie di Ku Klux Klan contro la Lega. Sì, di antileghisti, no. Tu con i cappucci, con tutto. Ma no, si può inventare qualcosa di più pittoresco ancora. Cioè? No, ma dico, bisogna fare qualcosa. Qui è veramente, quando vedo parlare Salvini, mi commuove. In che senso? Guardalo soprattutto di profilo. Tenerezza, di profilo, sì. Sì, di profilo, quando c'è col mento che viene un po' fuori. No? Sembra grugnisca. Sembra grugnito. Parla come si chiamano quegli animali che grugniscono? Maiali. Ah sì, l'hai detto tu, eh? No, ma io ho detto che grugnisce. Vabbè, che ne so, gli animali che grugniscono sono i maiali. Salvini grugnisce, non è un maiale. Non so, sei tu che hai fatto il paragone con gli animali? Dimmi un animale. No, ho detto che... Hai paura di Salvini? Hai paura che ti quereli? Sembra grugnisca. Beh, adesso pure tu sei tutto moderato, tutto... No, Salvini mi ha già fatto... Solo che il giudice ha detto che va archiviato, lui si è opposto all'archiviazione. Cose normali che accadono ogni giorno anche a noi, non ti preoccupare. Sì, appunto. Ma tu sei dell'idea accogliamoli tutti, cioè tu vedi la foto di quel bambino, ti commuovi e dici accogliamoli tutti. Ma sei matto, mi commuovo. Ma che cazzo vuol dire mi commuovo? E che ne so, magari... Cioè come quello dice il perpiglio in casa tu, ma che discorsi sono? Non è che mi commuovo, finalmente l'immagine... vera ci fa forse riflettere più di tutte le dopo altre che abbiamo immaginate. Dopo che abbiamo riflettuto che facciamo? Sta succedendo Cruciani, succedendo qualcosa o no? Dunque che dobbiamo fare concretamente? Accogliamoli tutti? Prendiamoli tutti da noi? Non mi a ragionare, non è che devi prenderli tutti ma... Non lo so, sta succedendo qualcosa. Vabbè, succede qualcosa. In questo momento c'è uno tempo, sono testimone del mio tempo, quindi faccio un ragionamento, uso il cervello. Vabbè, ma quello succede ma sempre, insomma, foto o non foto. 3.000 morti, questo non è vero, scusami. 3.000 foto così. Dopo la seconda guerra mondiale, grazie forse anche all'orrore di aver visto quelle cose, sì, ma fin di quello lì c'era una cosa precisa, però c'era lo sterminio. Anche qui c'è una cosa precisa. E che cos'è, scusa? Cioè, qui ci sono guerre, ci sono popoli affamati. No, qui c'è da fare una cosa: combattere i trafficanti. Combattere i trafficanti. Combattiamoli benissimo. Solo questo c'è da fare. È una cosa epocale questa. Ma combattiamo i trafficanti. Va bene, questo magari. Basta. Vedere queste persone, donne e bambini che danno un assalto a un treno per andare in Germania, dove c'è per fortuna una persona di buon senso che oggi ha detto una frase che è definitiva per tutti gli altri governanti europei. Dice: la Germania fa ciò che è moralmente, guarda, un leader politico che moralmente se lo può permettere, giuridicamente dovuto, cioè? Né più né meno, cioè accoglie i profughi. Ma intanto dice di bloccare, l'altro giorno ha detto di bloccare le frontiere Brennero, le frontiere al Brennero. Dice, siccome non li sapete controllare voi italiani, non sapete fare niente, allora vi mandiamo i nostri a fare il lavoro che voi non sapete fare. Senti, voglio chiedere a Toscani una cosa, ma la signora, la vittima di quell'Ivoriano, no? La figlia, no? Sì, che fa il giro delle televisioni, ti impressiona un po'? Beh, insomma, è la figlia di due che sono stati uccisi. Insomma, qualcuno l'ha criticata perché dice ha fatto il giro delle televisioni dalla Durso, ha tuonato contro il governo. Arriva Renzi, insomma. Forse non è che Renzi decide in questo modo qui le cose. Beh, io penso che sia più che naturale una reazione così, che ti ammazzano padre e madre, uno impazzisce un po', insomma, un po' una reazione da è impazzita. Da impazzimento, sì, insomma, più che comprensibile. No? Comunque, Cruciani, se tu fossi un immigrato, io ti accetterei, quindi pensa. Beh, ti ringrazio molto. Sul barcone, noi ti chiederemo. E non è che ti porterei a casa, ti farei lavorare, magari ti manderei alla Zanzara a fare quello che fai, un lavoretto così, ma ti aiuterei a sopravvivere. Spiegami una cosa, sono curioso di sapere, siccome è un Veneto verace, il sindaco di Venezia, una città che tu conosci e che probabilmente ami, dice che Gay Pride gli fa schifo, che tutte quelle robe lì fanno schifo. Ma è un... ma sai, tutti quelli che hanno tendenze omosessuali represse reagiscono così alle cose gay. Cioè tu dici che Brugnaro alla fine... Sì, tutti quelli che hanno un problema, cioè, no, io i gay non li sopporto, vuol dire che hanno in fondo all'anima, al cuore, una paura di essere, non so io, ma essere in modo sbagliato, non davvero omosessuale, che non è... Cioè tu dici che sono un po' degli omosessuali repressi, un po'. Ma i nazi ci hanno... Ti ricordi Hoover, il capo dell'FBI americano? Sì. Con tutti gay. Era un super gay represso. Tu dici che Brugnaro potrebbe essere un super gay represso, tu dici? Ma io penso di, con una reazione così, pensi dico, di ma sì. Cosa gliene frega, cosa fanno i cose? Guardi piuttosto le cagate che fa il comune, la giunta, Venezia, le cose che non fanno. Sta lì a guardare, lasciali fare, no? Loro vogliono essere così. Ah beh, gli fa schifo il gay pride. Gli fa schifo lì, vuol dire... Va bene, che faccia schifo a lui, va bene, ma non è che lui decide per tutti gli altri. No, infatti non è che lo vuole proibire, dice che gli fa schifo, no, ma quando... tutti questi che hanno queste reazioni sull'omosessualità... Sono un po'... Sì, ma in modo negativo però, represso, capisci? In modo represso. Cioè vorrebbero ma non vanno fino in fondo. Vorrebbero, forse sono anche un po'... hanno queste tendenze, hanno paura, sai come hanno senso il peccato, sono moralmente... Vabbè, resta un attimo lì, fermo là. Ah, perché Parenzo è uno sparco comunista di merda! La Zanzara. La spazzatura radiofonica italiana, siete proprio una cosa abominevole, siete una merda proprio. Allora io non capisco perché uno mi scrive il cinismo davanti a un bambino morto di 3 anni, un bambino morto in mare, prima o poi si paga, auguri, ma cosa c'entra pagare? Non c'è nessun cinismo, dico che uno si può commuovere, può essere un'immagine simbolo come dice Parenzo, può essere un'immagine della storia, ci vorrebbero 200 immagini come quelle, sono anche d'accordo con Toscani. E dopo? Cioè, e dopo che succede? Cioè, dopo che succede? Uno deve andare da qualche parte, no? Cioè, qualche cosa si deve smuovere, no? Allora, che cosa si deve smuovere? Dobbiamo accogliere tutti? Forse no. Forse dobbiamo intervenire sui barconi, come dice l'emerito grandissimo professor Lutto, che intervenire lì per impedire che i barconi partano. Partiamo qualcosa con la cosa dobbiamo fare? Tu che fai personalmente? Personalmente no, che fai? Infatti sto qui che sto perdendo il tempo a parlare con te, no? Forse anche parlare con te, discutere questa roba qui può essere utile a far capire alla gente che dobbiamo avere un senso di responsabilità. Vabbè, fondo, no? Sì, apparteniamo a una società, basta. E in fondo tu fai un programma che parla costantemente di questo, fatto, certo, sociale. E quindi stiamo qua a discutere, non è che io voglio consenso, tu dici la tua, io dico la mia, forse qualcuno dirà la sua o forse cambierà opinione, forse può servire. Allora, quella foto del bambino non è nient'altro che un documento di una realtà che ci circonda. Vabbè, ma non c'era bisogno di quella foto, dettaglio. Lo sapevamo già che la gente moriva. Moriva. Vanno a vedere queste foto fatte dalla Marina Militare, questi qua in mare che sembra un Ma no, abbiamo le foto delle estive piene di cadaveri, dai. CGL che tornano col barcone dopo aver fatto il giro del lago di Varese. No, dobbiamo vedere quello veramente che succede. Così, infatti abbiamo paura, vedi la discussione, una foto così non si fa vedere. Ma dico, non è altro che la documentazione di una realtà. non vogliamo vedere la realtà. Spiegami una cosa, Olivero, ma tu, un parlamentare europeo che è Buonanno, che ieri ha detto da noi che il tizio Civoriano va sodomizzato in piazza, quello che ha ucciso i due coniugi, anche lui. Anche lui dovrebbe essere sodomizzato nel Parlamento europeo. Ma Parlamento europeo dovrebbe avere un gruppo di sodomizzatori per sodomizzare questi qua che dicono ste cazzate qua. un gruppo di sodomizzatori. Tutti quelli Salvini, per esempio, se lui va pochissimo, quelle due o tre volte che ci va all'anno, dovrebbero sodomizzarlo. Ma no, come sodomizzare Salvini? Sì, poi credo che andrebbe bene. No, andrebbe bene a Salvini. È eterosessuale, convinto, da quello che mi risulta. Scusami, dai, risulta Olivier. Confuse. Ma no, non ho l'idea affatto confuse. È eterosessuale. No, sì. Ma no, ma dai, ti assicuro. Tu dici ogni volta che va al Parlamento europeo dovrebbe essere sodomizzato. Ma dai, insomma, perché? Scusa, spiegami perché adesso questa cosa brutta. No, ma a parte che non c'è, lo prendono anche io. Non hai mai visto cosa dicono di lui al Parlamento europeo? Vabbè, lo criticano perché. Sai quanto viene pagato lui per andare là a lavorare e non ci va? Ma no, ci va come no, gli altri. Ci va, guarda le presenze. Guarda che lo paghi anche tu. Ma tu sì, sì, ma ci va come gli altri. Vergognati. Parenzo sarà andato via, che deve andare alla 7. Ah, abbiamo Luca, è arrivato Luca Telese. Oh, saluto. Omaggio a Toscani. Telese. Luca. Quella foto, ha ragione Olivero, è uno spartiacque. Ed è ma che palle che mi avete fatto con questa foto? Mi avete fatto due coglioni con questa foto. Sono stato. Che coglioni, oh! Da questo popolino. Finalmente è arrivata questa foto. Non voglio vedere. Ma questo Olivero, dicono che noi speculiamo perché questo popolo di gente con la panza, col riporto, con compreso le frustrazioni, compreso te, che va in giro come Buonanno con la mimetica e fanno i duri con i deboli, poi se vedono la foto del bambino morto, speculazione. Ma chi lo dice? Ma vi state inventando un nemico che non esiste. Fate i complimenti al Manifesto, ha fatto una prima. Ma non ci penso nemmeno lontanamente. Ma chi se ne frega? Faccio i complimenti, è vero. Ma no, siete complimenti alla direttrice. Ma chi se ne frega? Niente. Ma chi se ne? Ma l'hanno fatto tutti, anche la stampa, un sacco di giornali e su internet. Non c'è bisogno di fare complimenti ai giornali. Bene come il Manifesto. Vabbè, ma Giuseppe, vabbè. Ma chi è quel poveretto che ha chiamato prima? Donato da Varese, non lo insultare. Donato. Guarda, c'è speranza anche per te. Ma fate sentire Olivero un pezzo di Donato. Ma perché vedi, Olivero, è importante. E ha detto una cosa terrificante sulla Boldrini, perché era in chiaro stato confusionale. Sono tutti questi nazisti da salotto che si eccitano, la sparano, poi Cruciani... Come si fa coi cuccio? Ha detto chiedi scusa. Beh, certo. E si è placato, ma sono pazzi questi. Senti, volevo chiedere però a Olivero un augusto parere su un tema che mi preoccupa assai, altro che il bambino, mo per carità, grande commozione, eccetera. Io però sono persona che non si commuove più, che devo fare? Vedo la foto del bambino e chi se ne frega? No, chi se ne frega del bambino? Mica sei normale, non è che mi viene l'emozione al cuore. Se ci fosse tua figlia ma sono cazzate quelle che dici, non ci possono dire questo. Vabbè, allora emozionatevi, Olivier, io dico questo, voi emozionati per queste cose, io mi emoziono per quello che mi pare. Avrò il diritto oppure mi devo emozionare per forza per le cose che dite voi? No, non so se hai il diritto, ci devo pensare. Dai, su, allora il leader degli Iron Maiden, che si chiama Bruce Dickinson, ha parlato del suo cancro, per fortuna sconfitto, in un'intervista alla Radio Sirius. Lo attribuisce al cunnilingus, alla pratica che si chiama cunnilingus, che Olivero conosce bene perché ormai è diventata la sua unica attività, diciamo, non avendo più attività sessuale, diciamo, seria. Cioè, cos'è cunnilingus, scusa? Non sai cos'è cunnilingus? No, non ci posso credere, dai. Giuro, non so. Cioè, tu, fotografo di fama mondiale, fotografo internazionale, non sai cos'è il cunnilingus? No, spiegamelo in italiano. Dai, Olivero, non ci posso credere che non lo sai. Spiegalo all'Italia. Ma non ci credo che non sai cos'è il cunnilingus. Metà dei tuoi ascoltatori non sanno cos'è il cunnilingus. Ma moltissimi dei miei ascoltatori lo sanno, perché è un termine ormai entrato nel gergo comune. Diciamo che se ne parla ogni tanto qua la zanzara. No, ma molti lo sanno. È una pratica sessuale che in cui l'uomo usa la lingua, diciamo, hai capito? Immaginavo. Che ne so, non lo sai. Allora, il leader degli Iron Maiden dice: è un virus, si chiama... Io lo chiamo Lecchino. chi fa queste cose? Un lecchino. I lecchini sono altri, però scusi, i lecchini sono gli schiavi, i servi. Politici sono i culilingus di ogni mestiere. Esatto, è un virus, si chiama Human Papilloma Virus. Sono quasi pronto a scommettere che ogni volta che senti qualcuno che ha contratto il cancro alla tonsille, alla gola, ai polmoni, qualsiasi cosa, se non è un fumatore o un bevitore, è quasi inevitabile che sia HPV. Human disse Michael Douglas. Lo disse Michael Douglas, Dunque, lui dice che la causa del suo cancro è il sesso orale. Io sono molto preoccupato per questa cosa qua, ma davvero molto. Ma devi stare attento, la patonza è pericolosa. Ma perché è pericolosa, dici? Ti attacca le malattie. Tu sei convinto di questo? Attacca le malattie, dici? Ma se uno c'ha, se la patonza è usata in modo liberale, così. Cioè, se è usata così. È un po'. Ti ricordi il film di Fellini, quella che risucchiava le monettine con la patonza? Sì, una va in giro con la patonza, fa questo, poi tu ti dici se non è usata, se non è lavata bene, eccetera, eccetera. Utilizzata bene, può portare delle cose. Anche le cannucce, anche un bicchiere, però, se tu bevi da un bicchiere sporco. Sì, ma qui è proprio una cosa precisa. Vabbè. Oliviero, ti saluto, ciao, un abbraccio. Ciao, fai il bravo, fai il bravo. Ciao. È tornato il nostro uomo dei sondaggi, caro Telese, il nostro uomo dei sondaggi, anche noi abbiamo la nostra Ghisleri, il nostro Pagnoncelli, eccetera, Associazione Italiana dei Sondaggi, AIDS, questa è la nostra associazione, è andata a esplorare cosa pensano i tifosi della Roma di questa, abbiamo chiamati Roma Club, delle frasi di Esposito, l'assessore a Roma, ma piemontese, che ha detto eccetera eccetera, ha cantato i cori Roma merda. Pronto? Sì, buongiorno, sono della AIDS, Associazione Italiana dei Sondaggi. Posso rubarle solo pochissimi secondi? Vabbè, giusto perché se te ne rubi qualche cosa. Dunque, l'assessore ai trasporti del Comune di Roma, Stefano Esposito, che è juventino, ha dichiarato che allo stadio cantava Roma, Roma, merda e gode quando la Roma perde. Lei cosa ne pensa? È un pezzo di merda lui. Se lei lo vedesse per strada... Ce lo può scrivere. Se lei lo vedesse per strada, cosa gli direbbe? Che senso da una mignotta. Cosa gli augura? È un bastardo e basta. Ma lei mi sta prendendo in giro? No, signora, c'è stato commissionato questo sondaggio. Che è un imbecille. La prende i soldi. Lei cosa ne pensa? Ma che può essere solo che è deficiente. Se lei lo vedesse per strada, cosa gli direbbe? Ma nemmeno lo considero. Se una lo incontra. Persona come tante altre. E cosa gli augura? Che diventasse laziale. Non posso rispondere. Cosa gli augura? Che ne so, una scaccarella, faccia lei. Poco quello. Pronto? Sì, buonasera, sono della AIDS, Associazione Italiana dei Sondaggi. Posso rubarle cortesemente pochi secondi? Guardi, l'assessore ai trasporti del Comune di Roma, Stefano Esposito, ha dichiarato che allo stadio cantava Roma, Roma, merda e gode quando la Roma perde. Lei cosa ne pensa? Beato lui che cantava così, però se c'è lo stronzo è proprio lui. È un gran pio della mignotta e stronzo. Arrivederci! Occhio che siamo degenerati. La Zanzara. Andiamo a Mantova, Davide, vai. Sì, buonasera. Dimmi. Buonasera. Per quanto riguarda il discorso della parietti, io non riesco a capire perché questi radical chic che ci sono in Italia devono denigrare sempre gli elettori della Lega Nord. Ma sì, considerare il fatto che Salvini riesce a prendere voti dei decerebrati o di ignoranti, come ha detto la parietti, ma ogni volta ripete la stessa cosa, dai. Poi innanzitutto il discorso degli immigrati, purtroppo la Lega Nord è un anno e mezzo che sottolinea il problema. Vabbè, che perché c'entra non... sottolinea il problema? Adesso non faccia il militante, non faccia il militante, su. No, io non sono militante assolutamente. Il discorso è che è un anno e mezzo che la Lega continua a denunciare che c'è un problema di immigrazione. Vabbè, denuncia che c'è un problema di immigrazione, vabbè, d'accordo. Purtroppo dopo siamo i soliti italiani che... dobbiamo accettare sempre tutto. Siamo i soliti italiani che prendono i diktat dagli altri paesi, adesso gli altri paesi magari si sono accorti che magari il problema c'è. Senti, Luca, allora senti Luca, grazie Davide, se esistono delle pasticcerie specializzate per l'ho i cani. L'ho visto! Allora, esistono delle pasticcerie Bao Cake, ma che apre a Prato. Io dico da un ascoltatore. Bravo. Allora, esistono delle pasticcerie specializzate per i cani. Ora, secondo me questi qua sono dei geni, perché non sono amanti degli animali, sono gente che ha fiutato il fatto che esistono dei gonzi in giro, perché sono dei chi è che porta il cane alla pasticceria dei cani? C'è solo un imbecille. Inaugurato il 17 settembre con un party dog. No, ragazzi, allora io no, ma non c'è nessuna vergogna, questi sono dei geni perché hanno fiutato l'affare, aprono negozi o attività, addirittura c'è una roba sui matrimoni, spero non dei cani, o comunque come vestire ai matrimoni i cani, per non parlare della cremazione di cui abbiamo già detto, questi sono dei geni perché capiscono che ci sono dei pazzi, ci sono degli imbecilli i quali andiamo alla pasticceria a far mangiare c'è qualche il laboratorio a vista in cui le bestioline possono assistere alla preparazione dei dolci. Sì, ma io chiamerei ma questi questo qua. Questo è un simbolo dell'Occidente che decade. Ma no, beh, l'Occidente che decade addirittura. Cioè... ma tu porti il cane che deve guardare il dolcetto mentre si prepara. Ma tu ti rendi conto? Sì, ma ho capito, ma questi qua che guadagnano su questa cosa sono dei geni, perché riescono a guadagnare sull'imbecillità. Dai, Carmelo, provincia di Messina, dai. Io a proposito di questa cosa vorrei chiedere a tutti questi animalisti, a tutte queste persone che comunque trattano i cani meglio degli esseri umani, se vedendo la foto di quel bambino di oggi si siano indignati, si sono tutti rattristati come se fosse chissà che cosa, come se il problema l'hanno scoperto oggi perché c'era la foto di quel bimbo poverino là in spiaggia morto. Però praticamente vorrei chiedere a questa gente preferisce pagare 200 euro al mese per il cane e compagnia bella, oppure pagare qualche cosina o non so per... Vabbè, adesso il collegamento tra il cane e la foto del bambino qual è? Scusa. No, funziona. No, c'è il collegamento. È chiaro, perché una bella ti spiego perché c'entra. Perché c'è gente che quando vede la foto incomincia a condividerla su Facebook, a farla vedere in tutto il mondo, cazzi e mazzi, dicendo che poverino, povero di qua, povero di là, però nello stesso tempo chiudono il PC. Se c'è un bambino che sta morendo di fame, se ne fottono e preferiscono spendere i soldi per il cane, che il cane è nato per stare fuori. Io ce l'ho i cani. O la campagna, sto in campagna, ho gli animali, però i cani si fanno i cani e quindi stanno fuori, fanno tutto quello che cazzo vogliono. Le persone che hanno di bisogno devono andare a cercare di salvarli. Sì, di però Carmelo, mi sembra una minchiata questa qua. Adesso solo Teresa la può condividere. Cioè solo Teresa può condividere questa cosa qua. Non è che cioè... io e Carmelo, va bene. Tu risenta di Donato là dal Cottolengo. Ma che c'entra Donato? Che c'entra Donato? Guarda che te lo scateno, guarda che te lo scateno Donato. Io non dico frammento delle birlacchiate che ha detto. No, che frammento. Allora Carmelo, qual è il collegamento? Uno che ama gli animali anche io non so, perché io non lo amo, perché non spendo no dei soldi, uno che ama gli animali e si indigna per la foto. Può esistere anche uno che ama gli animali e spende per gli animali e nello stesso tempo si indigna per la foto. No, va bene, sì, ma c'è da dire pure questo, che per esempio oggi ci indigniamo perché abbiamo visto questa foto. Il problema è che in realtà essendo che la cosa non mi tocca, cioè io parlo per me, non è mio figlio, non è mio fratello, sì, io sto vedendo la foto, sono triste, ma me ne fotto, perché il problema è questo, perché oggi ti dico sì che mi dispiace, ma appena io chiudo il PC, che l'ho visto sul PC o sul giornale, sì. Appena chiudo il giornale o il PC, sì, mi occupo dei cazzi miei, mi occupo dei cazzi. Ma sono d'accordo con te, su questo sono d'accordo. Ciao, fermi. Dopo che fai quando vai a dormire ti sogni tra la zanzara. Allora, Telese, Giuseppe, dimmi di che c'è, dimmi, che è successo? No, ma ti volevo chiedere, no, i tipi antropologici, diciamo, che sentiamo... Parla, non ti staccare dal microfono, sennò non ti si sente. I tipi che stiamo sentendo in queste ore, come definirebbero quel bambino? Un clandestino? Ma un clandestino che vuol dire? Definirebbero quel bambino... Quello è un clandestino, uno. No? Beh, tecnicamente se arrivava in Italia era un clandestino, ma i minorenni non so allora, se sono inquadrabili come clandestino. Hai già dato una risposta. No, sono clandestini pure loro. Quindi quello è un clandestino. Bene. Beh, ma come bisogna definirlo? È un bambino che qualcuno l'ha messo ma sui questo, barconi, qualcuno l'ha capito? Messo in mano ai delinquenti, sì, no? Il padre e la madre che magari sono morti con lui. E allora? Io non capisco però questa commozione a che cosa porta. Io ti assicuro, non capisco. Non ma capisco non a cosa porta. Non puoi vendere questa immagine di cinismo perché non ci credi neanche. Ma no, ma non capisco a cosa porta. C'è qualcosa che non va se la gente mette i ma la gente che muore ma è sempre morta dappertutto. Cioè... Non puoi pensare che sono tutti scemi, Giuseppe. Ma chi ha detto che sono tutti scemi? Chi ha detto che nel mare. E allora che dobbiamo accogliere tutti i disperati? No, ma spariamo. Dobbiamo accogliere, allora, dobbiamo accogliere tutti i disperati? Dobbiamo accogliere perché se limite il tuo ragionamento è spariamo. No, ma che c'entra? Vedi che non ho mai detto spariamo. Ma no, il cattivismo, dove ma porta? Che c'entra ti il cattivismo? Là. Mamma mia, proprio è la logica. Dobbiamo accogliere io tutti i disperati? Dobbiamo accogliere tutti i disperati? Rispondi, dobbiamo accogliere tutti i disperati? Sono fulminati. Dai, su. E poi ti voglio dire una cosa sulla Boldrini, però te la dico dopo, magari. No, dimmela subito, dai. Devi chiedere scusa alla Boldrini perché come no, per la telefonata di per la telefonata di Donato chiedo scusa, no, il resto Donato no. Deve però non è colpa mia se uno impazzisce, No, ma la Boldrini non ha nessun fotografo privato, nessun fotografo personale pagato. No, personale, che è personale? Quelli sono i fotografi che lavorano per la no, camera. No, ci sono due agenzie, non dire stronzate. Tutte le attività della camera e le foto che la Boldrini pubblica su e gliele fa la sua portavoce con l'iPhone, quindi proprio non spende niente. Allora, tutto falso quello che ha scritto Beghis, tutto falso. No, ci sono dei fotografi che lavorano per la camera perché la camera si perché fa, per la camera fa dei contratti che non è sì, ma per le attività istituzionali della ma camera. Ma comunque li fa, sono spesi quei soldi o no? Per la Boldrini. Ma sì, ma non certo. Per la Boldrini inaugurano la cerimonia del ventaglio, scarteranno una vabbè, foto. Ho capito, ma sono sempre budget della e il budget della presidenza della camera che potrebbe essere tagliato. Ma c'è tutto, ma che dovrebbe essere tagliato? Allora, certo. Tagliamo il budget di Radio 24. Ma che c'entra? Che c'entra il budget di Radio 24? Dire. Vabbè. Tu sai, Telese, che una delle notizie di gossip di questi giorni è Nina Moric, ex moglie di Corona, che perde la testa sui social networks nei confronti di un giovane ragazzo disabile, il quale va a caccia di VIP, cerca ho i VIP visto. Su internet, benissimo. Lei attribuisce questa cosa qui agli hacker, cioè non è stata lei che gli ha detto figlio di puttana, eccetera, eccetera, insultandolo anche per la sua disabilità. Beh, mi è capitato di sentirla qualche istante fa. Pronto? Pronto? Sì, chi è? Ciao Nina, sono Cruciani. Ah, ciao. Ciao, volevo sapere, siccome prima ho sentito dalla D'Urso quel ragazzo disabile che dice che domani vi incontrerete, ma allora farete pace? Ma tanto ragazzo è già chiarito in studio che è l'unica che non sono stata io perché anche su, è stato rubato anche su un profilo una volta e anche la madre l'ha confermato. Io e lui abbiamo già fatto pace, però io vado a trovarlo perché mi è dispiaciuto per tutta questa storia dove sono stata in mezzo, non mi hanno infangato e ho detto di tutto. Cioè, loro. Scusa, che cosa ha detto lui che si è convinto che non sei stata tua? Non è che si è convinto, lo sa perché io con lui ho un rapporto civile, anzi ci sentiamo anche una volta, perciò è un ragazzo dolcissimo, non potrei essere mai stata io, perché tra l'altro io quei giorni non avevo nemmeno il telefono che avevo rotto, ho preso il telefono il giorno dopo e ho visto tutti questi insulti. Scusami Nina, io non ho niente contro di te, però voglio capire, com'è possibile che una persona, che ci sia un profilo che è chiaramente il tuo, in cui tu hai attaccato questo ragazzo disabile? Ti racconto una cosa, allora dimmi. Gli hacker non sono saliti solo sul mio profilo, sono saliti anche sul profilo di Giovanotti dove lui insultava precisamente la gente. Gli hacker, e lì sì. Hacker si chiamano. Gli altri, sono le persone che non so se sei realmente tu o mi stai prendendo per il culo. No, ti sono io, certo che sono io. E chi vuoi che sia? Allora cosa vuoi no, dire? No, voglio capire. Cioè, esistono gli hacker. Ma lo so che esistono gli hacker. E allora è molto facile. Ma non è che rispondono ad un ragazzo così. Gli hacker servono per altre cose. Probabilmente qualcuno che non li sto molto carina, oppure se qualcuno che non li sto simpatica. Allora, invece di andare a attaccare, non so, un avvelleno, qualcuno che potrebbe essere più credibile, è andato ad attaccare proprio un ragazzo disabile dove io perdo credibilità. Mille, sì, ho capito. Mille, cioè, tu stai dicendo che c'è una specie di complotto di no, che ne so, magari te è partita la brocca, a tutti parte la brocca a un certo punto, no? Cioè, può partire. Esatto, ma a me non parte la brocca, perché io non ho questi momenti idea di rabbia. Beh, no, ma capita a tutti di averli. A me non ne capita, ok. Non l'ho fatto io, è stato un attimo. Va bene. Perciò tranquillo. Prendere per il culo. È stato anche Manu, lo stesso detto, e anche sul suo profilo sono ritratti. Per carità. Perciò, lasciatemi in pace. No, e chi ti vuole per, nessuno ti vuole perseguitare, per carità. Ma allora è stato pure qualcun altro a dire no, avviato sa per lei, non dice come, perché lo sa bene lei cosa faccio nella vita, lo sa bene lei cosa ha fatto con mio figlio, che ha fatto? E quello ti conferma anche, è viados e basta, per me non ci chiudo qui la telefonata. È un viados? Ho detto, e mi scuso con Vialas di aver programmato la bella Lady Rodriguez, perché non è una bella persona come tutti pensate, perché quando si trattava di mio figlio, girava per casa nuda, caro, si è avuto gli incubi da quando aveva 5 anni, mi minacciava morte, mi diceva che mi portava a lei mia mio figlio 5 anni fa. Stiamo scherzando, perciò io ho la parola libera di dire, ma stai zitta. Però che c'entra il paragone coi trans, scusami, un trans brutto. Ma i trans io li amo. Appunto, sono meravigliosi i trans, e tu però in questo modo dici sei peggio. No, io poi ho subito scusato con trans di averli paragonati a Belen Rodriguez. Con lei proprio non me ne frega niente, è una strega cattiva, e prima o poi uscirà fuori. Perché non vai a trovare Fabrizio in comunità? Ma perché tu non ti fai i cazzi tuoi? Ma così è una curiosità. Vi prego, tagliatemi quel pezzo. Perché non ti fai i cazzi tuoi? Che c'è? Che c'è? Telese, che c'è? Non sta bene. Ma è messo perché... confusa. A parte il fatto che io ho visto che lei nel profilo diceva anch'io ho un cugino malato. Erano molti dettagli. Ma se sì, l'hacker. Ma quale hacker? Che ha studiato, dai. Ma quale hacker? Poi è l'unica persona al mondo, credo, che potrebbe insultare Belen Rodriguez perché gira nuda per casa. Anche questo è strano. Tu dici figlio, io lo trovo educativo. Ma il figlio c'aveva 5 anni, cioè era piccolo magari, no? Vabbè, che c'è? Ma basta, moralismo. Dice, dai. L'unica che si scandalizza perché Belen Rodriguez gira. È l'unica al mondo, cioè è una specie di ben di Dio. Io, cioè, dà un'educazione anche equilibrata a un figlio, gli dà un'idea, una prospettiva. Enrico da Milano. Enrico, allora, intanto sì. Dimmi. Intanto volevo dirti che capisco benissimo il tuo cinismo, perché è l'arma migliore che hai per fare il lavoro che fai, tra l'altro molto bene. Però si capisce che non sei così cinico in fondo, perché la tua amicizia con Parenzo tradisce anche il tuo sentimento, no? A proposito di che, io riesco a capire tutta l'ignoranza che c'è in giro, tutta la gente che ce l'ha a morte con Parenzo, che alla fine è una persona molto coerente e ragiona su quello che dice, non aggredisce mai nessuno. Sentivo quella parte, quello di Bergamo lì, Donato, che Varese, da Varese. Vabbè, maestro Enrico, hai chiamato per dire Parenzo è bravo, simpatico, forte, eccetera, Donato è un coglione, quelli che l'attaccano sono tutti dei coglioni. Non era questo, a questa telefonata, sì, dai. Il senso della telefonata è che il problema dell'Italia è l'ignoranza, perché attaccare gente disperata che viene che cerca di venire in, ma in chi un posto attacca? Dove ma chi ha attaccato i profughi? Chi attacca gli immigrati? Nessuno li attacca. Ma come non li io attacca? Sono per una politica molto chiara, che è quella del governo dell'Australia, che è no way, qui non si entra, fanno i cazzi ma loro gli australiani, che dice perché che... non lo possiamo ma... fare anche noi? Ma... questa è la domanda, perché l'immigrazione è sempre esistita. Vabbè, allora facciamo entrare tutti, allora facciamo entrare. Basta che uno è disperato, facciamolo entrare, facciamo così, uno si dichiara disperato. Telese, come dice Telese? No, Telese dice sono disperati. Vabbè, allora se sei disperato entriamo, anche quelli che sono, che ne so, depressi. Tu, c'è un siriano depresso, che ne so, un nigeriano depresso, facciamolo entrare, dai, su. Ma non ti degradare così, dai. Ma che c'entra degradare così, dai, ma non dire stronzate. Un giovane radicale, tutto pace e diritti, un po' fricchettone, nel 68 pace e diritti, io, ma sei impazzito, con i figli dei fiori e a mescalina, dai. Fermi, pubblicità. Ma perché tu non ti fai i cazzi tuoi? La Zanzara. Ormai è tutto degradato. Ma perché tu non ti fai i cazzi tuoi? Grande ritorno, naturalmente, seconda puntata della settimana, caro Telese. Radio Padania, il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori. Allora, c'è un conduttore di Radio Padania che si chiama Sammy Barin, caro Telese, non so se lo conosci. Conosco. Ah, l'ha invitato pure a Matrix, o sbaglio? Una volta. Sì. Vai. Guarda oltre i monti. Mi spiegate perché non vengono mai pubblicate le immagini della nostra gente che muore, le immagini dei cabobo che ammazzano schifosamente i passanti per strada a picconate, gli schizzi di cervello da tutte le parti. Perché Repubblica, perché Facebook, perché questi giornalisti ben pensanti non hanno mai pubblicato quelle immagini? Perché adesso ci fanno soffrire pubblicando le immagini di questi bambini e ne arrivano tanti altri e muoiono a decine, a migliaia? Però mi permetto di dire al signor Barin che le due cose non c'entrano una beniamata mazza. Cioè, l'immagine del bambino sulla spiaggia turca, se non sbaglio, e le immagini degli schizzi di sangue di uno che viene picconato dal signor Cabobo non sono paragonabili, non è la stessa cosa, non è la... Mi permetto sommessamente di far notare all'amico Varin, tu Telese non hai nulla da aggiungere? Ma no, ma hai commentato tu, dai. Ancora in difficoltà. Ancora Varin, perché sei in difficoltà? Loro. Ma che loro? E mi sto riferendo a quel bambino siriano morto sulla spiaggia. Allora, con la mia cattiveria che tiro fuori spesso, vi dico che Renzi non è riuscito a trovare migranti morti su quel famoso barcone gigantesco. Vi ricordate? Quel barcone affondato, si parlava di 600-700 morti annegati. E lui lo ha tirato su spendendo milioni di euro, signori. Non ha trovato purtroppo morti, o forse non ce n'erano pochi, non conveniva mostrarli, signori. Padania bella e libera, guardavano. Ascoltatore, le case dobbiamo lasciarle ai negretti. Senza dubbi né ripensamenti. E alla fine si trovano di dover cambiare casa se vogliono vivere, tornare a vivere, non tornare a fare il nababbo, tornare a vivere. Ecco, devi andare fuori dalle balle e lasciare tutto quanto ai negretti. Senza dubbi né ripensamenti. Il peggio di Radio Padania. Allora, direi di andare a Milano da Roberto, vai. Sì, buonasera. Dimmi. Io dico semplicemente questo: voi fate molti discorsi sui gay e altre problematiche. Veramente abbiamo parlato pochissimo dei gay oggi, comunque. Sì, oggi, ok, ma è un argomento. In generale parliamo moltissimo degli omosessuali, dei froci, sì, eccetera. No, ma, eccetera. Beh, È giusto, cioè non voglio dire che state sbagliando. Allora? È solamente che dovreste aggiornarvi, perché visto e considerato che già i musulmani non sopportano un crocefisso in una scuola, pensate un attimino quando inizieranno ad essere molti di più. Probabilmente ci penseranno loro a sistemare tutte queste questioni che noi giustamente cerchiamo di sviluppare e portare. Cioè, tu stai dicendo che i gay, essendo, come dire, non particolarmente ben voluti nel mondo musulmano, saranno gay, lesbiche, ma tante altre cose che adesso. Dunque, per ci noi penseranno sono i musulmani quando vinceranno in Italia, quando vinceranno in Occidente, a distruggere ma il mondo gay. Ma non c'è bisogno che vincano, ma non c'è bisogno che vincano, perché se già adesso la comunità italiana, bisogna togliere il crocifisso perché offende la loro religione, di conseguenza lo andiamo a togliere, figuriamoci nel momento in cui ci sarà una popolazione più consistente e vedranno due gay o due lesbiche baciarsi o in atteggiamenti intimi. Tu dici è inutile che la Chiesa fa tutte queste battaglie, tanto fra poco le comunità musulmane saranno talmente radicali, talmente diffuse che basteranno loro a distruggere tutti i discorsi sul gender, sul matrimonio. Ma sono tutti discorsi fatti senza guardare più in là del proprio naso. Io capisco che te, Cruciani, devi fare la trasmissione di seguito, ma tra poco magari passano 5 anni, cioè non è che il tra poco a livello temporale chiaramente è molto relativo. Va bene, Roberto, ho capito perfettamente. Carlo, provincia di Macerata, vai Carlo. Pronto? Sì, che c'è, Luca, dimmi. No, ma dico, il sindaco di Bondeno che vuole alzare l'IMU, ne abbiamo parlato? Sì, tutto abbiamo detto. Chi accoglie? Sì. C'è gente malata. Veramente, ma tu che pensi di questo campionario di frustrati? Ma campionario di frustrati? È gente che ha idee bizzarre per prendere voti. Con rancore, con rabbia. Carlo, sì, però un po' è provocata, non scopano. Che ne sai che non scopano, scusa? Tutti dei frustrati, ipodotati. Tutti ipodotati, cioè tutti quelli che vogliono, come dire, combattere triste. I clandestini sono tutti frustrati che non scopano. Gente di abitudini malate. Anche Salvini allora? No, ma Salvini cavalca questa onda, un po' come te. Un po' come me. Carlo dalla provincia di Macerata. Pronto? Vai Carlo, dimmi. Buonasera, io vorrei segnalarvi un personaggio che è ospite fisso su una radio privata locale nella zona Fermo, Macerata, dove il direttore è Giancarlo Guardavassi. Giancarlo? Giancarlo Guardavassi, lavorava alla RAI, ma lei è un'altra generazione. Santalmassi! No, Giancarlo. No, Giancarlo Guardavassi era un... Guardavassi era un di giochi tipo anime... Vabbè, vado a controllare. Sì, sì. Telefonato per questo. La cosa grave è che in questa trasmissione lui ospita quasi tutti i giorni, perché è una persona tipo la vostra che telefono su 24, però un filo palestinese di 64 anni che si vanta delle persone che muoiono sui balconi, perché dicono che sono tutti nemici del popolo siriano o arabo o via dicendo. Cioè, non ho capito, c'è un ospite di questa radio locale, come cazzo si chiama sta radio? È un ospite fisso. Come si chiama sta radio? Radio Out. Radio Villa Rete. Radio Out, benissimo, segniamo tutto quanto. Radio Out. Secondo me fa continuamente della apologia di reato questo signore. Vabbè, adesso non so se fa apologia di reato. Esulta. Lo sa perché fa bello Cattivo Tempo? Perché questa è una radio dove il telefono tutti i coetanei di Guardavassi, un settantenne, tutti vecchietti, via dicendo, no? Però ultimamente addirittura l'hanno spiegato su una tele locale, Vera TV, che sta su numero 79. Vabbè, allora... è ribadito quello che ho detto io. Solo che la conduttrice è rimasta esterefatta e non gli permetteva. Ma io non ho capito chi dice queste cose, chi è che esulta per i balconi che affondano? Questo signore che è ospite fisso a Radio Out e si fa chiamare nessuno, non dice neanche il nome. Come non dice il nome? lui non si fa richiamare nessuno, però come ripeto ultimamente è andato su una trasmissione tele, come si chiama, gliel'ho detto 5 minuti fa, sta su 7-9, Vera TV, e la conduttrice quando lui esternava queste cose che le ho detto io non gliele faceva dire, c'era permesso da dire, cominciava a dire che l'infibulazione no, per le donne è un afrodisiaco addirittura. Sì, ma questo qua è questo è da conoscere. Aspetti, non ho finito. Le concubine sono tutelate perché quello che le paga deve riconoscere il figlio e non se rimane incinta. Vabbè, vado a indagare. Ciao Carlo, ciao. Segnalano che Giancarlo Guardabassi, l'amico Pistelli, faceva dischi caldi a domenica mattina, la domenica mattina a Radio 1 anni 70, Giancarlo Guardabassi. Bene. Indagheremo su questo pazzo che esulta per i barconi, Su Esposito, si sono svegliati pure quelli del TG1 sulla vicenda Esposito, sentiamo un po'. L'ultimo autogol della giunta Marino, a firmarlo l'assessore trasporti Stefano Esposito, entrato nel governo della capitale poco più di un mese fa, ma nato e cresciuto in Piemonte, ultra della signora da ragazzo, da assessore, protagonista della trasmissione radiofonica La Zanzara di Giuseppe Cruciani, che firma l'assist velenoso. Facevi le trasferte da ultra a Roma. E quindi i cori quali erano? È Roma merda, Roma merda. La trovo divertente. È quella parola che le dice, che inizia per M. È una delle, credo, delle parole più usate nei cori da stadio. Però detta da un assessore è un altro peso, poi da un assessore a Roma. Ma non è del tutto, io non so, non ci trovo niente veramente di strano. Poi però c'è anche la storia del 64, che non conosce il 64. Devo dire la verità però, Telese, che almeno il TG1 non ha tolto la parola merda. Cioè rispetto al TG5, che ha bippato la parola merda, il TG1 incredibilmente, essendo un po' più mainstream, diciamo, del TG5, cioè essendo molto più popolare, sono arrivati 48 ore dopo, sì, sono arrivati un po' dopo, sì, un po' in ritardo, però comunque ce l'hanno fatta, hanno fatto il servizio e devo dire che non hanno bippato. Ma di che stiamo parlando? Hanno fatto bene, meglio il TG1 del TG5. Ma arriva la seconda toppa, proprio lui, assessore ai trasporti. Quanto sei preparato? Il 64 da dove va? No, mi becchi assolutamente privo di... Cioè, sai il 64 da dove va? Lo sa adesso qual è la 64? Sì, ma da Termina Vaticana, ma non è questo il problema. Non lo è per lui, ma per i romani, romanisti e non, sì, i trasporti restano un problema. Va bene, Alberto da Piacenza, vai. Pronto, buonasera. Vai, dimmi. Niente, era per darvi una mano su quando si va a discutere. Adesso, purtroppo vi faccio scendere, non so se scenderà l'audience, ma comunque il tasso di intelligenza, comunque il discorso si fa meno alto, diciamo, visto che si parlava di immigrazione, quant'altro. No, ma dimmi Alberto, vai tranquillo. Parlavamo di animali domestici, perché siccome ci sono alcuni inesattezze. Abbiamo parlato di pasticceria per cani. Sì, vorrei aiutarvi a inquadrare una cosa che nel mondo occidentale io sempre... valutato che quello che succedeva negli Stati Uniti poi dopo 10 anni puntualmente si replicava. Ah, non c'è dubbio, non c'è da dubbio. Noi ho cominciato a notarlo con i videoregistratori, queste macchinette qui che arrivavano da noi dopo, i video schermo dunque piatto, tu mi stai dicendo che le pasticcerie per i cani, c'è un libro famosissimo, io ho cominciato a leggere libri di storie dei propri padroni con i loro cani da Ive Marlin in poi, che prima di essere un film di grande successo è stato un libro di enorme successo. Il suo autore, un giornalista americano, che ci ha fatto una carriera praticamente, e c'è uno di questi libri che è proprio di una coppia di amici non so quanto amici, comunque, che avevano sti cani, erano senza lavoro, e però avevano anche i cani in appetenza, allora? Comunque con dei problemi, e si sono inventati una una linea di prodotti dolciari per cani. No, ma dolciari. Per me va tutto bene, per me sono dei geni questi qua, e il problema è chi va a comprare i dolci per i cani. Cruciani, no, ma dai, è normale, perché tu hai lavorato a Panorama, ti vado, scusi, mi è scappato. Ma no, ho lavorato, scrivevo degli articoli per... Ti seguo da quando hai cominciato, comunque, Cruciani, senta, lei ha lavorato a Panorama, su Panorama 10 anni fa c'erano articoli del fatto che in America si facciano le dialisi per gli animali a pagamento. Ma che c'entra le dialisi? No. La dialisi è normale, se uno deve portare un cane a... Si parlava del fatto che... Ma io sto dicendo che quelli che fanno sì, però adesso usciamo fuori, c'è il mercato e fanno bene. C'è un mercato, ma va benissimo, c'è un mercato, infatti il problema secondo me è che c'è un mercato su delle cose assurde, dai, su la pasticceria per i cani. C'è un mercato su tutte le cose. E quindi gli animali domestici, hai voglia. Lo so. Quella che si ritiene madre della mia cagnolina, mia moglie, perché ci vive tutto il giorno e l'ha allevata da 2 mesi in poi. Va bene, Alberto, grazie. Tina Ferrara, Tina da Ferrara, che devo chiudere, Tina. Buonasera, Cruciani. Dimmi, cara. Volevo fare una precisazione. Io sono stata obbligata a cremare il mio gatto. Come obbligata a cremare il gatto? Non ho capito. Non avevo alternativa. Dove lo metti un gatto? Nel cassonetto dell'immondizia? No. Se non hai un giardino dove lo puoi seppellire, io ho telefonato. Ma chi ti ha obbligato a cremare il gatto? Scusa. Allora, abitando in città, come fai ad eliminare un gatto morto? Dentro al cassonetto dell'immondizia, ovviamente, per civiltà non lo puoi mettere. Allora io ho telefonato all'azienda all'ERA, che è l'azienda che raccoglie l'immondizia, hanno dato un numero dove io mi dovevo rivolgere per eliminare il gatto, ed è un'azienda, è una ditta che fa la cremazione. Questo è molto grave, però, una ditta. E ho pagato 35 euro. È molto grave, tutto ciò è molto grave. Io dico una cosa: volevo molto bene al mio gatto, però non sono una fanatica. Sì, ho capito, Tina, però nessuno è obbligato a cremare quando un gatto, un cane, quando ti muore, non c'è nessun obbligo, non è previsto. Sì, Telese, non Telese è previsto, ma non sai dove metterlo. E vabbè, ho capito, ma chi se ne frega. Lo porti in montagna e lo seppellisci sotto un boschetto, sta bene. È una buona idea. Ci sentiamo domani 18:30, ciao. Comunque, Cruciani, se tu fossi un immigrato, io ti accetterei. Se tu fossi là sul barcone, non è che ti porterei a casa, ti farei lavorare, magari ti manderei alla Zanzara a fare quello che fai, un lavoretto così, ma ti aiuterei a sopravvivere. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ma perché tu non ti fai i cazzi tuoi? Radio 24. La passione si sente.